Siamo tutti puttane. Esatto. Ecco, e con questa notizia bomba. Ma tu ci sarai, aspetta. Puttane. Ho detto così, Giuliano Ferraresi, anche l'account Twitter. Certo. Però non so se è vero, Giuliano il grasso, o Ferrara il grasso. Però scrive le cose giuste, non è una parodia. Boh. Giuste, per modo di dire. Sì, cioè quelle che scriverebbe lui. E infatti gli ho detto, sei tu la puttana più grande, almeno quelle si fanno pagare. Ma stava mangiando il rossetto in quel video o si stava truccando? No, si mette il rossetto perché in piazza stasera scendono tutti col rossetto. Ma se ci entra lui in piazza non c'è spazio per appunto, una piazza molto... C'è la Sant'Anché, non mi ricordo chi altro, una cosa proprio disgustosa. Però finalmente hanno capito che sono delle puttane, vabbè. Vabbè, è giusto. Quindi, vabbè, un morto politico, Berlusconi, condannato a 7 anni, vabbè, solo in primo grado, ma speriamo. E poi i morti veri, che sono un sacco, no? Aspetta, a proposito. Vabbè, Matheson, vuoi spendere due righe, due parole? Sì, è morto. Vabbè, su di lui è anche difficile dire una cattiveria, perché... Sì, ha fatto sempre solo roba bella. Sì, hanno fatto cose brutte magari dai suoi racconti, ma lui non è colpevole. È vero. E siccome faceva racconti brevi, siamo anche brevi su di lui. Sì. No, allora, volevo dire dei numeri, posso? E dilli. Oggi sono 31 anni, 31, non 30, 31, che è uscito Blade Runner. Oh, proprio oggi! Perché non lo rimettono nei cinema? I 31 anni di Blade Runner, ogni anno. Ma visto che noi abbiamo il font di Blade Runner, che non vuoi dire? Non lo volevi dire? No, è giusto. E poi sì, l'altro morto, Gandolfini, altri numeri, 4 pigna colada, 2 fritti misti, un bel po' di patè de foie gras e parecchie birre. E qualcuno dice anche qualche grammo di cocaina. Beh, ci mancherai però, James, Io ero molto affezionato. Andarsene così, che classe, 2 fritture, io ho letto di pesce, quindi... Sì. Io ci metterei la firma per morire così, poi sì, dispiace. Un attore grosso e con una massa proporzionata al suo talento. È appena morto un altro, che è meno noto, Liu Chia Liang, che è uno dei volti della Shaw Brothers, uno di quelli che facevano ruoli da protagonista, ma poi anche producevano, coreografavano, ha fatto Drunken Master 2, ma anche altri film con... Jackie Chan, ed era nelle 36 camere dello Shaolin, cioè uno dei monumenti della Shaw Brothers di quella serie di film. È morto oggi a, credo, 76 anni di leucemia. È un attore da ricordare anche questo, hanno fatto la storia anche loro. Vabbè, come dicevamo prima, adesso arriva l'estate, noi non andiamo un po' in vacanza fino a settembre, non dovrebbe morire più nessuno, quindi sarà un periodone. No, sì, periodo lunga, dipende. Come la puntata dei Griffin in cui c'è la morte infortunata e non muore nessuno. Speriamo che qualcuno di stronzo muoia. Sì, Giuliano Ferrara, visto che sì, è molto più grosso che di Gandolfini, probabilmente mangia e vive peggio e se la meriterebbe molto di più, vabbè. Ecco, però il menù Gandolfini, ma è così buono, io lo farei anche. Magari non 4 pigna colada, però 2 fritti misti. Patè de foie gras, vabbè, magari non tantissimo, non è che mi faccia impazzire. Però, la birra, grande menù. Ultimi numeri, 2015, uscita di Independence Day 2. Will Smith non ci sarà, costa troppo. Pensate un po', una volta era un pischello quando ha fatto il primo, adesso costa troppo. E poi è uscito... non il programma definitivo, ma almeno il primo, come dire, il film d'apertura del prossimo Locarno, visto che probabilmente ci andremo anche quest'anno, dal 7 al 17 agosto, 66esimo Locarno Film Festival, si aprirà con Two Guns, un film, una commedia action di Baltasar Kormakur, credo di aver letto bene, non riesco neanche a leggere la mia calligrafia, che era già stato a Locarno nel 2000 con Reykjavik 101. Protagonisti saranno Denzel Washington e Mark Wahlberg. Solo commedia ormai fa, commedia action comunque, Wahlberg. E allora il programma ancora non c'è, lo diranno il 18 luglio, però qualcosa già si sa. Per esempio, quest'anno organizza un italiano, Carlo Chatrian o Catrian, dipende, e la retrospettiva sul passato sarà su Cucor, ma questo forse già si sapeva quando eravamo ancora addirittura là, e ospitone, perché gli daranno il leone alla carriera, no, il ghepardo, no, cos'è? Il pardo alla carriera a Herzog, e quel giorno io non me lo perdo ma neanche. Madonna, che colpaccio. E poi purtroppo c'è lo speciale Castellito, che è? Madonna. Spero ci sia anche la moglie, così possiamo... E beh, è il sacro e il profano, no? Herzog e Castellito. So. Spero ci sia la moglie, così possiamo insultare tutti e due in un solo giorno. E... Speriamo che Herzog faccia qualche tavola rotonda, tipo gli altri registi. Perché credo di sì, di penso, solito gli ospiti... Penso che una del genere ci sarà, poi magari c'è anche qualche cerimonia, boh. A parte che forse l'anno scorso a Togli aveva andato un pardo, però era una manifestazione. Sì, sì. Era una dopo il film che aveva prodotto. Sì, era dopo Motorway e poi lui era venuto a parte. Già. Madonna, beh, però se andiamo a vedere Herzog dovremmo portarci la pistola a pallini. Sì. Ricordi? Per chi non lo sapesse, cercate su YouTube, c'è un video in cui Herzog, intervistato, viene colpito dai proiettili di una pistola a pallini. Non so, ancora non si è capito perché, ma vabbè, it's not significant. Anche un colpo piuttosto potente. Sì, un bel livido gli lascia, pazzesco, chissà se gradirà, no, non credo. Però a proposito, mentre cercavo le news, ho visto su Facebook che qualcuno citava una sua dichiarazione su The Dark Knight, in cui ne parlava in termini entusiastici. Ah, beh, è sempre stato un pazzo, Herzog. E... Hai delle news, tu? Sì, sì. Vai. Velocemente, così non mi ammorbo. Ah, visto che me l'ho dimenticato di dirtene, un'altra che ho ritrovato adesso, che ci sarà un taglio del 50% sugli incentivi fiscali al cinema. Sì, ne volevo parlare dopo. Su... Contrariamente a quanto invece avevano annunciato, cioè di incentivare ulteriormente la cultura, invece no. Quindi... Niente, meno soldi ancora al cinema, normalmente non vuol dire che smetteranno di fare film, ma che continueranno a fare quelli che incassano di più soltanto, esatto. Le commediacce e la robaccia, va bene, è tutto qua, questa non magari commentiamo dopo, però è... Sì, si lega a due domande che ci hanno fatto. Infatti, ricordiamocelo allora. Poi, vabbè, anche questa Flash, è uscito l'ultimo trailer, il trailer dell'ultimo film di Gilliam, che si intitola The Zero Theorem. Su Facebook io lo seguo, postava da un po' foto, cose varie, pare siano anche state rilasciate dei teaser un po' troppo rivelatori, insomma roba spoiler pesanti, non ho voluto guardare. Comunque la trama ricorda molto Brasil, un futuro distopico, il protagonista è Christoph Waltz, che interpreta uno scienziato alle prese con questo teorema che non so con cosa ha a che fare, pare molto visionario, insomma visivamente sarà interessante, speriamo si sia ripreso dopo Parnassus, ma insomma sempre interessante. Poi niente, è uscito il trailer dell'ultimo di Ridley Scott, The Counselor, da un romanzo di Cormac McCarthy, però per ora è in russo, non so, probabilmente ce n'è altri in inglese. E non so di cosa parla, c'è un bel cast, Javier Bardem, Cameron Diaz, Fassbender. Hai studiato russo te, oh. E vabbè, ma lo so leggere, so due o tre parole. E basta, Rosie Perez, quant'è che non si vedeva? Penelope Cruz, un bel cast serio. Cioè, oddio, ricco. Ricco, Poi, un'altra cosa stupida giusto da riferire, ma l'hanno vista in molti, credo. E Jim Carrey ha già parlato male del suo prossimo film, Kick-Ass 2. L'ha recitato, ha letto il copione, ha fatto tutte le scene, ha finito il film e poi si è accorto che era un film violento e ha detto, mi devo dissociare. Cioè, non mi dissocio, ma mi dissocio. Non so se è una presa per il culo, lui è un famoso provocatore. Però si è dissociato senza dissociarsi. Insomma, ha detto che non, dopo quello che è successo a scuola di Sandy Hook, si è sentito in dovere di esprimere la sua opinione, che non è chiaro quale sia. Comunque Millar gli ha detto, ma qual è il punto? Cioè, il film l'hai fatto, lo sapevi, vabbè. Molto strano, forse Carrey si sta rincoglionendo. Sì. No? Il film che fa, insomma, c'era il dubbio, eh. Adesso abbiamo la conferma. Meglio La violenza nelle scuole che un nuovo film di tipo I pinguini di Mr. Popper, cioè, quello andava bene. Sì, infatti, quello è immorale. Oh. Ma non so che gli è successo a Carrey, è proprio partito. Magari è fatto apposta, però. Sì, può essere, ma lui è sempre stato un attivista contro le armi, però non ho capito, vabbè, è l'età. Poi ce n'è un'altra che sarà graditissima a molti, vabbè, graditissima, neanche tanto, perché comunque Refn ha annunciato il suo prossimo progetto, ma il suo prossimo progetto vuol dire il quarto o il quinto di tanti che ha annunciato negli ultimi mesi. Dopo Solo Dio Perdona aveva parlato di nuovo di un horror che voleva fare senza rivelare dettagli, poi aveva citato di nuovo quell'idea che aveva di portare sullo schermo un adattamento di Barbarella che poi è diventato una serie TV, anche qui non si sa che fine farà, poi un'altra, il film del fumetto di Jodorowsky e Moebius, The Incal, anche questo una voce, non si è capito, e boh, Non Pago ha annunciato un altro progetto che è il seguito di Valhalla Rising, che forse è uno dei suoi film meno amati, però boh, vuole fare un sequel ed è una cosa futuristica ambientata a Tokyo, che però in qualche modo avrà dei legami, credo, perché se si chiama Valhalla Rising sarà interessante scoprire come collegherà la mitologia nordica alla cultura giapponese, però ormai si vede che si è trasferito in Asia e si trova bene. Se gli fa bene come gli ha fatto bene per Solo Dio Perdona, va benissimo. E basta. E basta. Ma vogliamo passare subito alle domande? Sì, a meno che, vabbè, quella di Lynch la ripetiamo dopo, la diciamo sì, già. Dopo. Tanto non è neanche proprio una dichiarazione. Vabbè. Intanto sono già iniziate da parecchio anche le riprese di Veronica Mars il film. Ah, è vero, sì. Volevo di dirlo se non l'avevi notato. Ma... No, sto vedendo tutte le foto dal set e Christian Bale è parecchio ancora rotondetta. Sarà strano, un film che non ha senso. Lei ormai non è più la ragazzina del college, dell'università, come nella terza serie. Beh, non lo so, è una madre ormai. E poi è rotonda, è anche un po' invecchiata sembra, però vabbè, sarà La strano. cosa che mi spaventa è che quando fa film lei viene fuori una schifezza. Sì. Sarebbe un peccato perché la serie era carina. Speriamo bene. Tra l'altro ho visto che praticamente tutto il cast del telefilm ha quasi accettato Sì. non mi ricordo i nomi degli attori, comunque lo sceriffo, il Casablanca più grande. Dick, Cioè, così, sì. sì, anche l'amico di colore, non mi ricordo come si chiama. Percy Dax terzo, Sì, il l'attore personaggio. è Wallace. Wallace, esatto, se ne hanno quasi tutti, quindi sarà proprio una rimpatriata. Sì, vabbè. Non ci credo molto, però ovviamente lo vedrò da fan della serie, fan di lei. Ne ricordiamo, è un altro finanziato col crowdfunding, ma forse l'avevamo già detto. Sì, ne ho già parlato. Allora, sotto con le domande, che facciamo? Una a testa e tanto rispondiamo entrambi? Sì, dovremmo solo gestircele senza programmi e sì, comunque alterniamo. Ah sì, allora, Killua Zoldyck, è il personaggio di Hunter vs Hunter, giusto? Sono andato anche a Yes. documentarmi, dai. Però facciamo una X, non so, Hunter x Hunter? Sì, non ho mai capito, non sono un Ti fan. risponderà lui. Ci fa tre domande, poi ce ne fa altre due, poi ci sono altri. Parti tu, che poi la terza è la tua. Così? Vabbè, dai, Dunque, parti, vai. Leggi. diceva dell'Hubding in Francia c'è un abbonamento da 20 euro mensili che ti permette nel mese di vedere tutto quello che vuoi al cinema. No, E chiedeva. no. Lui non diceva mensili, infatti sembrava. Ah, no, sì, scusa. Sì, un abbonamento mensile, ogni mese paghi 20 euro e vedi quello che vuoi. Sì. Volevo. Chiedeva se in Italia, secondo noi, è possibile fare una cosa del genere. Dopo la notizia che ho detto prima dei tagli al cinema, direi di no, però non troppo. Alla fine gli abbonamenti ci sono, noi li usiamo, sono più o meno 20-30 euro al mese. È vero, non puoi andare tutte le volte che vuoi, ma chi ci andrebbe tutte le volte al cinema? Io. Giusto gli appassionati, quindi sarebbe un numero ridotto e sui bilanci penso infierirebbe meno, però non è detto, magari la gente si sente sai, soprattutto gli italiani, quando c'è da scroccare, scroccano volentieri, per cui probabilmente sarebbe meno facile che in altri paesi. E poi, appunto, noi non siamo in Francia la gente va più al cinema, quindi ci sarebbe più gente che fa questo abbonamento. Qui è un paese più piccolo, l'Italia, meno appassionato di cinema. Secondo me ci sarebbe una perdita per i distributori, più che altro, specie per il caso dei film scarsamente distribuiti, quindi magari andrebbe anche bene, però ci sarebbe il rischio che certi film non li potrebbero non distribuirli più. Ecco, forse l'unica cosa. È un paese un po' strano l'Italia, in Francia c'è un atteggiamento diverso verso la cultura, quindi no, cioè diciamo sì e no, secondo me non sarebbe possibile. No, diciamo che gli appassionati lo farebbero, e come lo facciamo già, perché appunto ci sono questi tipi di non così buoni, perché comunque mi sembra più che buono, un 20 euro al mese vuol dire 4 weekend, insomma c'è un bel guadagno, sono 5 euro a film, poi ovviamente uno se ci va ogni giorno sono 30 film, quindi è un super risparmio per l'appassionato, però penso che appunto lo farebbero quei 4-5 appassionati, il resto non gliene frega niente, quindi anche se la fanno dura un anno, poi dicono vabbè la leviamo, tanto non la state facendo, non sembra interessarvi, purtroppo non c'è ricezione da parte del pubblico, non gliene frega, anche con una offerta così buona, non È una matita risponde. caduta. E poi sì, ho rintracciato l'articolo di cui parla, e su Wired, a Wired.it, e fa notare che però la situazione della Francia è parecchio diversa dalla nostra. Noi abbiamo UCI che ha una buona percentuale di tutte le sale d'Italia e basta, il resto sono tanti diversi. La Francia ha la UGC, adesso MK2, e la Pathé Gaumont che da sole gestiscono il 25% di tutte le sale, soprattutto nelle grandi città, e questa offerta è fatta da loro. L'UGC l'ha creata per prima e poi la Pathé subito ne ha piazzato una tessera uguale, identica, stesso prezzo. E appunto loro gestiscono quasi tutto, quindi non è che ci sia il monopolio, ovviamente, però dettano loro legge. Qui vabbè, lo può fare l'UCI, che tra l'altro non penso abbia tessere. Stranissimo. Stranissimo. E poi comunque in Francia parlava di un'offerta di un numero di film usciti all'anno, non solo francesi, molto superiore. In Italia no, quindi non lo so, per me rimane una cosa che nessuno farebbe, quindi la leverebbero per inutilizzo. Comunque sì, io la farei come 20 euro e vado tutti i giorni, cavolo. Sì, ma Anche le merdate andrei a vedere, ma di sì, tutto. appunto, tutti quegli scrupoli che uno ha se li eliminerebbe. No, penso che lui poi intendesse soprattutto, cioè, sicuramente la gente lo farebbe. Il problema è, come visto l'andazzo, poi si andrebbe in perdita. Dico sicuramente sì. Cioè, già Ah, così non sì. incassano una mazza. Così come fai? Cioè, sono 20 euro a film, appunto. Metti che uno davvero lo sfrutta quanto può, va ogni settimana o più. Sono comunque. Sì, spiccioli meno, però sul grosso numero sarebbero cifre più grosse, quindi sarebbe meglio come dici tu, nel senso che non lo usasse nessuno. E gli appassionati, quei pochi che davvero lo sfruttano, non farebbero calare gli incassi così tanto, perché il resto del pubblico andrebbe col biglietto, per cui si potrebbe anche fare. Il fatto strano è quello, che anche se ci sono gli abbonamenti, la gente non li fa. Magari sì, non vanno tutte le settimane, però non li fanno, cioè non gli interessa guadagnare, poi magari scaricano. Risparmiare, ma magari scaricano i film. Però fare l'abbonamento al cinema è impensabile. Facciamo il biglietto, prenotiamo anche quando non serve, come gente che conosciamo noi. Boh. Per cui sì, secondo me sarebbe un fallimento su due fronti. La gente non aderirebbe e in più ci perderebbe il meccanismo distributivo e di gestione delle sale. Sì, anche perché adesso ripensandoci, molti non lo farebbero perché non interessa, ma quelli che lo fanno, a parte gli appassionati, sono i tipici italiani che lo sfruttano al più possibile, cioè vanno a vedere di tutto e anzi piazzano le tende dentro e fanno rumore, fanno casino perché sono magari al quarto film, perché oh, se la devono vedere tutto, devono farli fuori questi 20 euro. Cioè, sì, è una mentalità sbagliata. Invece magari lo sfrutterei per rivedere il film, cosa che non faccio quasi mai. Ma sì. Però è il bel film, quante volte vorresti dire, invece di aspettare, me lo rivedo subito. Sarebbe gagliardo. Come una volta che pagavi lo spettacolo e poi stavi dentro in sala e te ne vedevi anche tre di fila. Bellissimo. E altri tempi, soprattutto altra Italia. Vado con la seconda? Sì, sì, che sennò... Ah sì, allora, velocissima. È una domanda su Stoker, però è più in generale. Allora, avevamo accennato al fatto che Park Chan-wook in Stoker, nonostante tutto, avesse portato molto del suo stile, in qualche modo salvandosi da molti altri colleghi che vengono fagocitati da Hollywood. Io fatico a capire, e lo chiedo a voi, come mai gli americani tendono a innamorarsi dello stile di un regista, ma gli commissioni in opere che tradiscono le caratteristiche distintive dello stesso. Non è un controsenso? Sì, è ovvio che è un controsenso. Però penso che i produttori americani non fanno altro che seguire il trend, sì. Park Chan-wook, regista di culto, certo, me lo vado a comprare. Che film ha fatto? Che ne so, però il pubblico americano lo vuole. E allora lo prendono, gli danno una sceneggiatura a caso, perché non è scelta per lui, ma come non è scelta per tutti gli altri. Se davvero volessero portare un qualsiasi regista estero in America e fargli fare un film nella sua maniera, gli porterebbero anche il regista, lo sceneggiatore, i suoi collaboratori. Se tu vai a vedere Stoker, c'è lui e il suo direttore della fotografia coreani, il resto è tutto un cast e una troupe americana. È ovvio che non può fare un film alla sua maniera. E poi penso che i produttori, vabbè, ovvio che loro, neanche con i loro registi, gli permettono di fare quello che vogliono. Figurarsi con uno che viene qua e devono pagare loro, tenerlo qui, dettano legge loro. E poi ovviamente il regista straniero, che la prende chiaramente come una vacanza questi film, perché sanno che non c'è un futuro qua, a parte Ang Lee, che lui è più americano del chewing gum ormai. Figurati se vanno a litigare per cose del genere, prendono il malloppone, fanno il compitino e amen. Poi alcuni si sanno fare le cose alla loro maniera e sanno imporsi meglio, però penso che sia quello il modo di ragionare. Però pensavo anche che non solo svendono il loro stile, non solo i produttori impongono le loro scelte, ma sono anche loro che si impigriscono coi soldoni degli americani. Quando sono a casa loro e devono fare le cose con meno soldi, magari tirano fuori soluzioni molto più originali. Quando gli dai il dolly, i carrelloni, eccetera, fanno cose che è molto diverso dal loro tipo di cinema normale. E quindi si stuprano, si prostituiscono, e c'entra lo stupro. Ho pensato ancora a Berlusconi, scusate. E quindi in definitiva io non li calcolo i film stranieri dei registi, i film fuori dal confine nazionale dei registi stranieri, soprattutto in America. Sono parentesi così, amen. Anche Stoker, bello, però non è Park Chan-wook, amen, è una parentesi. Vai. Sì, credo che il discorso sia lo stesso dei remake. Tra l'altro, parlandone, viene in mente subito il fatto che stanno facendo il remake di Old Boy. In America vogliono sfruttare un soggetto che è piaciuto, non li doppiano, quindi rifanno i film, e quando li possono rifare per variare un po', semplicemente chiamano il regista e gli fanno fare qualcosa. Poi dietro chissà cosa c'è, cioè in questo caso è anche magari un modo per lanciare questo sceneggiatore che esordisce, magari piaceva a Hollywood e volevano metterci davanti un regista di spicco. E poi Hollywood è così, ingloba quello che vende e lo addomestica. L'unica è non farsi addomesticare o viverla come un'esperienza, cioè come un regista che fa un divertissement, comunque un film così, tanto per levarsi lo sfizio, un esercizio di stile o quello che volete dire. Insomma, è un'esperienza, uno la sfrutta. Secondo me, poi ne riparlerò con Stoker, questo è il caso, cioè... Lui ha fatto un film di un certo tipo, si è piegato a certe regole, ma anche quella è una forma di arte, di cinema, mescolarsi, cercare di imitare. Il problema è quello, se poi ti fermi a un'esperienza che si conclude e torni ad essere indipendente, diciamo, funziona. Se poi ti rimani addomesticato, rimani lì e ti fai fregare dai soldi, è un altro discorso. Però penso che sia quella la storia, rifare in America, perché sì, è bello quello che c'è fuori, ma bisogna rifarlo in America, perché sennò non è abbastanza bello. No, intanto mi scuso se ci sono rumori, ma stanno lavorando qui. Ho sentito solo adesso dei colpi. Ecco, vabbè, dureranno poco, spero. Vabbè, e se no, quando stacchi il microfono e lo riapri solo quando parli, tanto si sente solo la tua voce in quei casi. Ah, ok. Va bene. Sì, sempre di Killua, la terza domanda. Vabbè, ma Killua è un nome sardo, dai. Credo, non credo sia da un fumetto. Mi chiedeva sull'horror, soprattutto mi chiedeva perché guardo Game of Thrones. Io chiedevo, pensavo me lo chiedesse perché sono appassionato di horror, ma me lo chiede più per quello, e seguo questa serie, e mi diceva come mai l'horror, o il presunto tale, non arriva a certi livelli, quando magari una cosa come il Trono di Spade, lui parla soprattutto della penultima puntata, arriva a dei livelli di violenza, di forza delle immagini che molti horror non raggiungono. E intanto, vabbè, è un discorso interessante perché in generale le serie TV stanno superando in molti casi il cinema, almeno a livello di budget e di, insomma, qualità tecnica. Il Trono di Spade è uno di questi casi, è ben scritto, è basato su un romanzo di successo, quindi vabbè, aveva un trampolino di lancio, ma ci hanno speso un sacco di soldi, si vede, insomma. Sul fatto della violenza, non so dire, intanto beh, non credo che sia vero, perché esce parecchia roba che credo sia più forte in molti sensi di cose come la puntata in questione. Certo è che, senza spoilerare, è tosta, si vedono delle cose, si vedono delle immagini che, soprattutto in America, nel cinema mainstream, non ritrovi. Mi viene in mente anche il remake della casa, no? Che passava per film particolarmente violento. Ecco, quella puntata di Game of Thrones gli caca in testa, insomma, per dirla volgarmente. Davvero tosta. Tanto una bellissima puntata, un bel finale. E non so dare una risposta. Mi vengono in mente anche serie come Spartacus, in generale il tema della nudità, del sesso. Non so da cosa dipenda, la TV è diventata più libertina. Non so poi in America in che orari li trasmettano questi telefilm. Da noi neanche in seconda serata, sono su Sky in prima serata, quindi c'è proprio un venir meno di certi tabù, anche grazie alla TV satellitare. Cioè Sky non ha più quel tipo di mentalità da Rai che ancora censura il Trono di Spade, no? Vi ricordate la notizia recente? Probabilmente è un fatto di crescita, cioè certe TV non hanno più quelle barriere, quei blocchi esterni, e quindi si possono permettere di superare quei limiti. Invece il cinema è ancora molto influenzato dalla censura, anche solo questioni produttive. Se un produttore sa che lo taglieranno il film, o che lo piazzeranno in una fascia di rating che non permette grossi margini di guadagno, poi insomma ci ripensano. È capitato con i film di zombie, con tanti altri registi. Invece in TV no, non ci saranno questi meccanismi dietro. Poi mi chiedeva come mai in Italia non sfruttiamo il nostro materiale. In particolare citava di Dylan Dog, che è un esempio abbastanza famoso, perché ne hanno fatto un film, l'hanno fatto gli americani, snaturandolo completamente, facendo un film orribile a prescindere dalla fedeltà. E non so, non abbiamo i soldi, quindi quando qualcuno si fa avanti dall'estero a produrre, è chiaro che i detentori dei diritti non dicono mai di no. Non credo ci sia nient'altro dietro. Cioè, la domanda strana e importante è perché in America interessa tanto questo personaggio, perché hanno fatto il film. A me non pare che lì abbia questa risonanza. Quindi l'hanno fatto per l'America come un film che non ha nulla a che vedere con Dylan Dog, ma allora gira un horror o un teen horror con i vampiri e i licantropi con un titolo qualsiasi. Io non ho mai capito cosa c'è stato dietro lì. Forse c'era un progetto diverso che è saltato, non lo so. Anche perché hanno cambiato parecchie cose dal Dylan Dog originale, no? Quindi. Tutto, la location, hanno tolto i personaggi, hanno lasciato la camicia rossa e la giacca. Infatti. Non so. Vediamo, aspetta, l'altra domanda era. Ah, chiedeva appunto perché gente che scrive queste cose, tipo Dylan Dog, Roberto Recchioni, purtroppo non so chi sia, immagino c'entri con Dylan Dog, comunque non assegnano a gente più competente le sceneggiature invece che a chi poi scrive film come Tulpa o quelli di Argento. E non so, non voglio anticipare troppo perché poi ne riparliamo, ma Tulpa è scritto da Tartano Sacchetti, che per gli appassionati è un monumento, uno sceneggiatore, insomma, che ha fatto la storia del cinema di genere italiano, ed è vero perché ha scritto i film più importanti di Fulci e non solo, anche uno di Argento, se non sbaglio, Il gatto a nove code. E in Italia ci abbiamo sta mentalità qua, la roba buona negli anni 70 è ancora buona, quindi sfruttiamola. Un pensionato come Argento o Dardano Sacchetti, secondo loro, è ancora in grado di creare qualcosa di interessante o almeno di attirare i suoi vecchi spettatori. Ed è quello, non, siamo un cinema morto anche dal punto di vista dell'intrattenimento e niente, non ci si prova ad andare oltre certe cose, si, piuttosto si rifà 20.000 volte la stessa roba. Va e bomba. Io non sono né esperto di Dylan Dog né di Game of Thrones, quindi salto. Arrivano domande... no, è arrivato anche un'altra cosa, ma non c'entra niente. Accorpo un po', perché tanto sono tutte su registi singoli, alla fine mettiamo tutto assieme. Giorgio Massignani e Luca Sebastiani, diciamoli i nomi tanto. Chiedono, allora, quattro registi diversi se non sbaglio, uno, due, sì. Allora, prima di tutto Schnabel, che ne pensiamo? E sì, anche i pittori che si cimentano nel cinema hanno una mano diversa sulla macchina da presa, per esempio Greenaway. Allora, di Schnabel io ho visto molto poco, a parte che ha fatto molto poco, però ho visto solo Scafandro e la farfalla, che è stra ultra famoso, e Basquiat. Mi piace? Sì, non mi fa impazzire. Non mi sta molto simpatico lui, non so perché, a pelle. È un personaggio zozzo, lurido mi sembra, non lo so, ho un pregiudizio verso i pittori. Scafandro e la farfalla, un bellissimo film, è uscito prima o dopo Il mare dentro? Dopo forse. Dopo sì. Vabbè, non è che voglio accostarli, però uno vede magari Il mare dentro prima e sono molto simili a alcune cose. Però no, molto bello. Basquiat invece, il suo primo film, vabbè, non è molto interessante. Parla di questo artista newyorkese che adesso no, che si chiama Basquiat ovviamente. non è che era un granché, però insomma era il suo primo film. Invece di Greenaway non so dire niente, non ho mai visto niente, mi dispiace. Fatemi domande sui film, sui registi vecchi, cazzo. E i pittori che si cimentano nel cinema, io li terrei separati, o al massimo gli farei fare i direttori della fotografia. Questa è la mia risposta. Tu che dici? Dunque, neanche io ho visto nulla di Greenaway, tra l'altro non conoscevo neanche i film, ho visto solo ora I misteri del giardino di Compton House, forse è l'unico che ho visto, magari su Sky che passava, non con titolo e conosco, ma non mi esprimo. Schnabel mi piace molto, almeno ho visto solo Lo scafandro e la farfalla, e mi è piaciuto solo per a parte per Emmanuel Seigné, ma per la messa in scena. Si vede che c'è un occhio diverso. Mi piaceva l'idea del disturbo sonoro visivo, i modi in cui creava l'idea del corpo come prigione. Era sicuramente un occhio interessante. E quindi, tornando alla domanda dei pittori, non so, non lo ammetto, ma non lo concedo. No, non lo so. Io non conosco altri registi, però penso che la contaminazione sia sempre positiva. Mi viene più che altro in mente, non la pittura, ma la fotografia. Comunque, uno come Antonioni, che viene da un percorso diverso e guarda che cosa ha fatto nel cinema, visivamente soprattutto. Quindi, ben vengano, anche perché c'è un po' di povertà di idee dal punto di vista estetico nel cinema. Quindi, un occhio, non sempre, non è detto che tutti abbiano la prontezza, l'abilità di adattarsi a questo mezzo, però è comunque un modo di vedere che può arricchire il cinema, perché no? Poi, domanda successiva è: che ne pensiamo di Charlie Kaufman, sia come sceneggiatore che come regista, e qual è la sua opera che vi è più piaciuta? Parlo io, è un genio, per me è uno dei migliori sceneggiatori viventi a Hollywood e uno dei geniacci più pazzi esistenti. Grandissimo scrittore, meno regista perché insomma Cinedoc è piaciuto così tanto a tanti, soprattutto gente immagino più intelligente di me, io mi sono fatto una pennica perché penso che sia uno sbrodolamento di 3 ore no, 3 ore non era, era sulle 2 ore, senza capo né coda, un costrutto di parole che forse su carta è molto bello, visivamente anche, perché quella città che si faceva su tutta lì era molto bello, però due palle così, il resto delle sue opere sono bellissime. Beh, a me è piaciuto tantissimo anche Human Nature, uno dei suoi primi, con la regia di Gondry. Piaciuto tantissimo. Ecco, qual è la sua opera che mi piace di più? Boh, sono tutti bellissimi. Persino Confessione di una mente pericolosa a me piace tantissimo. Riesco a dire quello che mi piace meno, appunto, Cine Doc. Per il resto, tutti a pari merito. Un po' come Tarantino, come fai a dire qual è il più bello? Non lo so, tutti. E chiudo dicendo che sta per tornare, visto che non fa più niente dal 2008, mi sembra. Era il 2009, 2010, insomma, è da anni che è fermo. Tornerà con addirittura 3 progetti: Anomalisa, Frank or Francis e How and Why, che questo è un film per la TV. Tutti e tre sceneggiatore e regista, però ancora non si sa nulla, proprio zero. Quindi aspettiamo, è bello rivederlo. Sono più o meno della stessa opinione. Non so scegliere tra quelli che mi sono piaciuti di più, so scegliere quello che mi è piaciuto meno, o comunque che funziona meno, ed è appunto Sineddo, ma non credo sia un brutto film, semplicemente è uno sceneggiatore. La prima esperienza è sempre un po' più significativa. È chiaro che esordire con una cosa come Sineddo che è un bel salto, forse troppo lungo come salto per un esordiente, quindi funziona e non funziona, ecco, è un po' troppo ambizioso. Si chiude su se stesso, un po' come questa città. È un film molto chiuso. Forse non è che non è difficile, è un po' impenetrabile, non perché è complicato, ma perché è un'estetica e un tipo di storia che allontanano, mentre gli altri magari erano un po' più ironici, più facili da digerire in tutti i sensi. Se proprio dovessi scegliere, probabilmente per simpatia direi Essere John Malkovich. E subito dopo Il ladro di orchidee, ma John Malkovich è probabilmente il più bizzarro e più divertente, insomma, tentativo che ha fatto. Terzo regista Linklater, qui generalissima, che ne pensiamo? Devo ancora inquadrarlo bene perché ha fatto opere molto strane, molto artistiche e anche avanzate, come si chiama Scanner Darkly o il precedente Walking Life. Sono ancora adesso delle cose, i film particolari in cui se ne parlerà ancora nei manuali di cinema. E poi ha fatto, che ne so, School of Rock o Bernie, quello l'hai visto te, mi sembra. Davvero non so bene come inquadrarlo. Generalmente mi piace, però ha una fama e una nomea da artista, da autore, ma fa anche roba abbastanza commerciale. Pazzariello lo definirei. Comunque sì, piace, piace. Ah, e Sì, tra poi l'altro. avevamo già parlato della sua trilogia lì di Before the Sunset, eccetera, che adesso uscirà il terzo capitolo. Quelli, come ripeto, dovrò ancora vederli e sfrutterò l'uscita del terzo capitolo per concludere, per vederli tutti, insomma. Sì, dicevo, è strano che i film più leggeri sono proprio quelli con Jack Black. Si vede che c'è un'amicizia dietro, c'è qualcosa. Non so spiegare. Tra l'altro, comunque, sì, School of Rock è forse troppo leggero. Bernie anche, ma è divertente, era piacevole. C'è un bel uso del cast. Sì, poi chiaramente colpisce di più per roba più audace come Waking Life, Scanner Darkly, non solo per questa tecnica che ho usato, ma anche perché insomma vanno un po' oltre i canoni classici del cinema. Sembra uno che ha delle buone idee, ha una voglia di proporre qualcosa di diverso, ma non solo per il fatto che si presta a cose più leggere, ma in generale come livello mi sembra che non spicchi mai, sia un po' così, uno di quei registi che per ora almeno non è riuscito a emergere. Interessante, si è fatto notare, è un po' non mediocrità, ma sì, un po' lì nel mezzo, Un dà soder. questa impressione, sì. Però ce ne fossero di così anonimi. Sì, infatti. Salto la domanda su Superman perché visto che ne parleremo più avanti, a meno che se avete visto Man of Steel, passo Sì, dopo. boh, ma tanto la risposta è sì, cioè sembra un videogioco, Ah, quindi chiuda così. ok. Vabbè, comunque ne parleremo più avanti. Terzo regista, secondo voi il film di Scorsese maggiormente riusciti e quelli meno? E poi pensate che l'abbondanza di soldi con cui lavora di recente abbia un po' intaccato il valore dei suoi film. Dei suoi film intendi gli ultimi, immagino. Cioè gli ultimi, ha così tanti soldi a disposizione che magari sono meno buoni? No, per me no. Gli ultimi tre cosa sono? Hugo Cabret, Shutter Island e The Departed. Non mi sembra che il livello sia infimo, anzi. Ogni volta che esce Scorsese sono dubbioso, ma ogni volta mi convince. A me piacciono tutti, anche gli ultimi, quindi no, dategli tutti i soldi che vuole. Poi adesso è uscito il trailer di Wolf of Wall Street, vabbè, un trailer che potrebbe ingannare, non so come sarà il film, sembra un po' leggerino così, sembra una pazzia. Lui con la commedia si è già cimentato con insomma, risultati interessanti. Sì, ma comunque non ancora non gli do un giudizio. Tra l'altro, visto che il suo prossimo progetto dopo questo e dopo altri, perché c'è anche un documentario su Bill Clinton e altra roba, è finalmente, perché non so, penso che avesse dovuto farlo da una vita, è un film su Sinatra, finalmente. Non si sa niente, solo una voce, però c'è un progetto. Questo lo aspetto da cioè, insomma, eh? Chissà se sarà un film musicale o storico sulla mafia. Eh sì, appunto, finora non si sa nulla, è solo un announced Sinatra Scorsese. Boh, vedremo, però ho già hype adesso. E allora, film minori o film maggiori? Boh, film minori direi i primi, proprio perché, insomma, come tutti i registi, ha iniziato magari un po' con inesperienza. Anche Mean Streets, bello, però. Ovviamente doveva farla a mano. Poi vado proprio a gusto personale. Casinò non mi è piaciuto quanto gli altri. Non so, sembra Quei Bravi Ragazzi 2 versione Las Vegas, uno spin-off. Non mi ha convinto granché. E poi La Tentazione di Cristo non è che mi abbia fatto impazzire, o The Departed per mille motivi, tra cui anche l'Oscar, il contentino. Però per il resto una filmografia più di 20 film, tutti ottimi film. Non saprei dire i più belli, vabbè, Taxi Driver, non è forse il mio film preferito, ma c'è il mio personaggio preferito. Quei Bravi Ragazzi è un capolavoro. Minori non lo so, se vogliamo considerare Alice non abita più qui minore, però non è brutto, è minore, ecco. Che poi ne ha sempre fatti, invece leggendo e sentendo la gente che critica, spesso sembra che solo adesso sta facendo film non sulla mafia, film non capolavori. Guardatemi un po' la filmografia, ha sempre Kundun, fatto roba di un livello medio-alto, è sempre Scorsese, va bene, però appunto con Dune, Al di là della Al di vita. là della vita, Il colore dei soldi, che però, poi ripeto, io metto tra i miei preferiti di Scorsese, ma è una cosa personale, poi magari mi spiego meglio. Sì, secondo me ha degli alti e bassi da sempre, ma dei bassi molto alti. E negli ultimi anni, boh, non credo che gli abbiano fatto male i soldi. Ripeto, perché appunto i bassi degli ultimi anni non sono comunque dei filmacci. È bello The Aviator, che io odio i biografici, quindi sono un po' di parte, eppure mi è piaciuto molto. E Hugo Cabret è stupendo, io lo adoro. In questi anni in cui mi lamento sempre della computer grafica, del 3D, vabbè, non lo considero in questo caso, però è un film che mi ha fatto piangere un sacco ed è bellissimo, ed è sempre girato da Scorsese, si vede, non è il prodotto commerciale che molti fanno passare. Io boh, non credo abbia avuto dei veri bassi e credo che i soldi li facciano non bene, ma non influenzino la qualità dei prodotti. Mi piace perché comunque si diverte molto a fare cinema, con i soldi più che girare i filmoni ci fa i suoi progetti che la gente magari non vede, i documentari, il documentario su George Harrison è colossale come durata, non l'ha visto quasi nessuno, però sono cose che lui si diverte a fare. Boh, mi piace, io credo che i soldi anzi li facciano bene, perché se si diverte e fa buon cinema. È che davvero probabilmente la cosa meno bella che ho visto di Scorsese è sì negli ultimi anni è The Departed. Ma forse dà più fastidio proprio perché ha vinto, come dicevi tu. E anche perché non è originale, e anche perché tanti dicono che sia come si dice, su commissione gliel'hanno fatto Sì. fare. Bah, Vabbè, comunque sì, non è un brutto film, però in confronto agli altri. Altre due domande da Killua, vai te stavolta. Sì, le devo leggere perché non me le ricordo. Si parlava sempre della Francia, questa non l'ho neanche ben capita. Cioè, c'è una legge per cui in Francia hanno l'obbligo di trasmettere un tot di film o di musica francese e così via. Quindi anche nelle radio la musica, un certo numero di canzoni francese e per forza un certo numero di film stranieri, di canzoni straniere. E quindi chiede se anche da noi, come per quell'abbonamento, funzionerebbe una cosa del genere. Non lo so. Dice anche se forzando le produzioni italiane in questo modo poi rischieremmo di far arrivare un sacco di commediacce, o se invece ci sarebbe qualcosa di positivo, quindi qualche autore interessante. Mancano i soldi, è sempre quello il punto. Sì, credo che la risposta non ci sia, cioè... La Francia non va bene come paragone, perché la Francia culturalmente, cinematograficamente, è più, sarà che il cinema l'hanno in un certo senso inventato loro, però hanno un rapporto più, che poi non è una buona scusa, perché noi abbiamo fatto molto cinema di qualità negli anni scorsi, però si è un po' perso, invece loro hanno sempre seguito, hanno sempre finanziato, nonostante la crisi che ha colpito anche loro, non è che siamo solo noi italiani. Non so, dovendo rispondere cinicamente direi no, non funzionerebbe e non avrebbe effetti positivi, perché ogni paese insomma è un mondo diverso e la Francia da questo punto di vista è avvantaggiata, non vedo prospettive positive per questo. Intanto la Francia è il terzo paese al mondo per quantità di film e insomma potenza economica all'interno dell'industria cinematografica, ci credo che riempi un palinsesto al 50%, cioè di tutto l'anno il 50% sono tuoi, è facile così. E l'Italia prima di tutto non ci sono i soldi, poi ce ne saranno ancora meno con questo governo, e secondo, in Francia il 50% che ti becchi al cinema o alla radio, quello che è, sono film francesi. Bello. In Italia il 50% ti capita Tulpa, ti capita Sorrentina con l'ultimo film. Wow, preferisco andarmene in Francia e migro. E poi, prima di tutto, a me non piacciono assolutamente le costrizioni, cioè il 50%, l'obbligo. Per forza è quasi, che ne so, un dirigismo economico, devi per forza aiutare la tua industria, no, anche perché facciamo un ragionamento prima, se il 50% è italiano, il restante 50% se lo deve spartire il mondo, considerando che gli americani piazzeranno un bel po' di film, ci mancherebbe, mettiamo il 35%, per la Francia e le altre nazioni, la Corea, il Giappone, la Cina, paesi che sfornano ottimi film, e rimane un 10%, neanche. E quindi ti perdi un mucchio di film solo perché devi avvantaggiare l'Italia. No, chiaramente no. Un conto è essere la Francia che fai tantissimi bei film, sei l'Italia, no. Quindi no, no e no. Ma che poi credo comunque che tra digitale terrestre e altro ce ne sia di questa quanti, cioè queste percentuali ci siano già in televisione almeno. Ah, in televisione è diverso, sì, però Ma io credo parlasse di quello, perché trasmettere Ah, parla di radio, penso intendesse questo, ma non so, perché al cinema produrre un certo numero di film non avrebbe senso, se non hai un budget a parte che ne facciamo una buona quantità, però credo intendesse semplicemente in TV o in mezzi di diffusione vari. Però secondo me si fa, cioè, non c'è un obbligo, ma c'è una forma di orgoglio nazionale. E che chiaramente se vai a guardare su certe piattaforme c'è la fretta di mettere il blockbuster americano, ma quello è comprensibile. ultimissima L'ultima. domanda. Sì, mi pare che il Monco abbia detto che Lynch è, se preferiti, certamente. Forse il regista di cui sento mancanza più di tutti. E poi magari intrinseco dici la notizia che hai letto, perché sarà una mancanza che sentirai ancora per un po', penso. Non nascondo però, saranno limiti miei, che Inland Empire avrà un ermetismo assoluto che lo avrà reso inaccessibile. Secondo voi, questo film indica che è un regista che ha ancora moltissimo da dire, o al contrario, l'ultima opera in cui prevale solo lo stile sul contenuto? O vuoi dire subito la news così? Sì, giusto tanto è rapida. Insomma, ha annunciato che è molto depresso, che il panorama cinematografico non lo soddisfa e che, insomma, vuole, non dico ritirarsi, ma a quanto pare vuole prendersi una pausa lunga finché non cambia la situazione e il suo stato d'animo, evidentemente. È un, non so, un momento di depressione. Tu è un periodo in cui si ritirano tutti, si prendono le pause tutti. Che succede? Si sente? Sì, un trapano. Ok, benissimo, spero duri poco. E tu in Land Empire l'avevi visto? No, è forse l'unico che mi manca di Lynch. Ah, quindi, boh, rispondo io alla domanda su in Land Empire. Allora, io sì, Lynch è uno dei miei registi preferiti, cerco di essere breve anche se è lunga. È uno dei miei registi preferiti. Con l'Inland Empire ci ho litigato tantissimo, perché la prima visione, sì, l'ho visto due volte, sono sei ore di Inland Empire, la prima visione non mi è piaciuto, è difficilissimo, appunto come dici te, come dice Killua, di un ermetismo inaccessibile, una cosa che sembra tutto, come dire, improvvisato, non c'è uno schema che riattacca, non c'è uno schema, eccetera. Alla seconda visione l'ho compreso un po' di più, diciamo che è espressionismo, è un film che non ha una trama, non ha un senso, è un'esperienza più fisica che mentale, però in senso buono, non è una che devi alzarti perché sennò te viene il Cristo, è un viaggio, è molto più road trip Inland Empire, incredibilmente, che una storia vera, che quello è il suo unico road trip, e va preso in questo modo, è un'esperienza, è Lynch all'ennesima potenza. Se vi è piaciuto il Lynch di Twin Peaks, il Lynch di Velluto Blu, benissimo, quello è una parte di Lynch, ma il vero Lynch è quello di Inland Empire, purtroppo o per fortuna. A questo punto è un regista che non ha più niente da dire o ha ancora tanto da dire dopo Inland Empire? Io penso che bisogna fare una scissione tra il David Lynch, sta ricominciando, benissimo. Tra il David Lynch regista, che è quello che era un ragazzetto che ha studiato arte, che poi è andato a fare il regista, che ha fatto anche robe molto commerciali, Dune, Twin Peaks, una serie televisiva, più commerciale di così, che ha fatto, che quindi è un regista, che è arrivato all'apice, che è Mulholland Drive, è arrivato a quel punto che penso pochissimi registi viventi e non più viventi possano raggiungere, cioè un capolavoro, un film che ha segnato il cinema da lì in poi, e da lì il Lynch regista probabilmente è finito, ed è nato, o anzi è uscito finalmente il Lynch artista, perché lui prima di tutto è un pittore, è uno scrittore, è un musicista, tra l'altro oggi è uscito Star Dream Girl, il suo nuovo singolo del nuovo album che uscirà il 15 luglio, Big Dream, secondo album, e è un po' come Coppola, per lui è finito, cioè lui ha fatto il capolavoro, ha sbancato, ha fatto quello che appunto nessuno o difficilmente qualcuno riesce a fare, boom, e per lui il cinema è finito, l'ha risolto, e adesso fa queste cose, fa Inland Empire, fa quei corti che fa tipo... si chiama Boat Trip, una cosa del genere, la serie Rabbids, Dumbland, sono cose così, per lui il cinema non vale più niente, e ci credo che non riesce a trovare produttori o non riesce a fare nuovi film, perché lui ormai ragionerà così, i suoi nuovi film saranno cose tipo Inland Empire, e quindi ha qualcos'altro da dire? Certo, ha tantissimo da dire, però... è una persona completamente diversa, un artista completamente diverso adesso. Il Lynch regista, forse no, non ha più niente da dire. Perché ha chiuso? Mulholland Drive è fine. È lì, si è chiuso. Cosa puoi fare più di Mulholland Drive? Niente. E quindi adesso è una nuova fase. Probabilmente non farà più film, non tanto perché non trova produttori, perché se vuole lo può anche produrre lui. Ma perché non gli interessa? Si fa i suoi album, sta facendo un giro ancora adesso di conferenze su la creatività, la meditazione. È anche uscito un documentario su questo, un documentario, un riassunto di queste conferenze. Si fa i suoi album, tornerà a dipingere, magari fa un film, ma è così, ha finito. Purtroppo, a me dispiace parecchio, però va bene, sono contento per lui, è un uomo realizzato, è un regista realizzato, fine. Tra l'altro lì nella news parlava di... pensava di tornare a lavorare in TV, per cui insomma abbandona temporaneamente, ma ha già qualche idea evidentemente. Tra l'altro ricordiamo che a Cannes c'era un suo film, tra virgolette, il documentario su Duran Duran, massacrato da tutti. Tra l'altro più che un documentario era un film a Scorsese, cioè li seguiva in un tour o è un concerto solo, non lo so. Vabbè, sono i Duran Duran, chi se ne frega. Comunque un qualcosa l'ha combinato. Tra l'altro ho visto un documentario su Lynch, non mi ricordo chi sono gli autori, comunque era un collettivo con un nome d'arte particolare, che praticamente segue la prima fase della realizzazione di Inland Empire. Ed è bello perché parte tutto da delle foto che lui fa in una fabbrica in Polonia, cioè è molto basato sull'ispirazione, sul momento. Cioè, ha fatto queste foto, ha visto delle immagini, quei colori tipicamente linciani, quei bui e quei gialli, insomma, si è fatto colpire e boh, ma ha cominciato a fare telefonate e da lì ha fatto un film. Ma anche quando descriveva la scena agli attori era tutto molto poco chiaro, cioè loro non sapevano quello che dovevano fare, lo diceva di volta in volta ed era molto poco chiaro, insomma, non avevano idea di quello che facevano la maggior parte degli attori, ma anche Laura Dern. Ci sono alcuni passaggi qui è molto confusa, però è bello, ve lo consiglio perché no, è un modo di vedere come lavora, piaccia o non piaccia il regista, e insomma è uno sguardo diverso, si racconta molto, parla della meditazione, bello. Sì, e anche vabbè. In Acque Profonde il libro dice appunto queste cose, lui non aveva un'idea, è partito dalle foto, è partito da una cosa così, e ha riunito tutti e ha iniziato a fare quello, ma non aveva niente scritto. Un po' come Rossellini, vabbè, un'altra cosa. E è riuscito a farci un film di 3 ore. Può piacere o non può piacere, bisogna però capire cos'è. È inutile liquidarlo come un non c'aveva idee, ha tirato fuori sta roba. No, quella era l'idea, fare un film del genere. È ovvio che molti lo odiano, Inland Empire. Fa niente. Sono quei film che fanno la differenza, no? Se lasciano indifferenti è una cosa negativa, ma si facciano odiare, bello, no? Guardiamo l'ultimo di Zombie, sì. Sono belle le reazioni viscerali, le incazzature. Vabbè, adesso finite le domande? Sì, finito tutto, basta, chiudiamo. Ho fatto un'ora di cosa? Bastardi. Non fatecene più di così lunghe, di così un po' alla volta. Avete avuto un anno per farci, adesso tutte insieme. E tanto ormai abbiamo detto che abbiamo finito le domande, quindi hanno già spento. Sì, è vero, allora. Taglierò. Allora, velocissimi, i film, segna. Sì, già segnato. Velocissimi perché soprattutto questi sono vecchi e soprattutto questo è insignificante. Insignificante è la recensione, quindi è finito. La casa dalle finestre. Magari. La casa dalle finestre della strada. No, la casa alla fine della strada di Mark Tonderai, che credo che sia un verbo al futuro. Tu tonderai. Un comandamento, credo. È vero, sì. Tonderai. Molto probabilmente. È un horror che è vecchio, perché in America è stato fatto nel 2010, è uscito un anno fa e quindi ha belle che 3 anni. Addirittura Jennifer Lawrence, quando faceva questo film, non era nessuno, forse non era neanche uscito ancora Un gelido inverno, comunque erano lì, mentre girava. È un film insignificante, trama velocissima da cui capirete già il colpo di scena, quindi un film stupido. Questa madre e figlia si trasferiscono da Chicago, la città rumorosa, fastidiosa, pericolosa, e si trasferiscono appunto in questa bellissima cittadina dove trovano una bellissima casa, 2 piani, col giardino enorme, una riserva naturale, i boschi, l'aria pulita, è tutto bello, persino i vicini sono gente simpatica, gente con cui vai a fare il barbecue e ti butti in piscina, il paradiso. però vicino a loro c'è una casa che dicevano era disabitata, invece no, c'è dentro qualcuno. Questo qualcuno è un ragazzetto, Jacobs, ma chi se ne frega, che in questa casa, l'ultima casa alla fine della strada, anni prima si consumarono degli efferati delitti, perché la famiglia che abitava dentro fu massacrata in un raptus di omicida dalla figliola. In quel momento il figlio non era in casa, era stato mandato altrove e quindi si è salvato. La figlia, che ha ucciso tutti, il cadavere, cioè il corpo, si pensa che sia caduto in un fiume e non è stato più ritrovato, quindi è tutto finito, sono tutti morti, anche la figlia, e adesso è tornato qualche anno, a quanto pare, il figlio superstite e sta vivendo nella casa. Immagino avete già capito tutto, è abbastanza semplice. E il film infatti non ha niente da dire, per un'ora è la noia più totale, davvero da pennica, non è neanche divertente, perché a essere onesti non è un film brutto, non è fatto male, non è il classico horror bruttarello, con gli errori, con pochi soldi, fa la sua porca figura, cioè non fa la sua porca figura, comunque non ha errori di sorta, è lineare, è fatto comunque benino, è un buon compitino. È solo che appunto perde un'ora nel nulla, nella noia, nell'ultima mezz'ora si riprende, c'è questo colpo di scena che avete capito dal primo minuto, c'è un altro piccolissimo colpo di scena, e poi finisce. Per fortuna, per gran parte della prima ora c'è Jennifer Lawrence in canottiera e ha un décolleté meraviglioso, per il resto niente, inutile, insignificante, ecco, basta, non sì. È Tulpa almeno è brutto. sì, è una cosa strana doverlo dire, ma sì, almeno Tulpa è brutto. Questo è uno di quei tanti thriller adolescenziali, perché sono leggerini, vogliono far vedere il dramma, gli omicidi, ma poi fanno ridere i polli, e ne fanno davvero con lo stampino, cioè sta roba qua sembra davvero... E probabilmente è così, uno di quei film che di quelle cose che si accorgono anche loro fanno pena e allora li mettono da parte, no? Come un libro brutto che non vuoi pubblicare. Poi cioè esce fuori l'attrice che piace, che vince l'Oscar, ritiriamolo fuori dal cassetto. Magari se la Lawrence non avesse avuto successo, non fosse piaciuta, sta roba qui non sarebbe mai spuntata fuori, o magari l'avrebbero ritirata fuori così d'estate, in un periodo di vuoto. È proprio un prodottino di quelli preconfezionati, che loro hanno lì già pronti, con degli sceneggiatori, ammesso che ce ne siano, che li fanno in serie. È difficile parlarne perché non c'è nulla di cui parlare, è il vuoto cosmico. Infatti non è che uno di quei film che sono dei trash, delle schifezze divertenti, dice vabbè, oh, qualcosa posso dire, posso raccontare la scena, posso dire, no, non c'è nulla, è proprio da copione, da manuale di cinema di bassa lega. Lasciatelo perdere, vabbè, ormai non c'è manco più nelle sale, c'è pericolo, non noleggiatelo, non scaricatelo, non vale neanche la pena di commettere un reato, non è nulla. Vale, cioè il décolleté vale, però potete trovare le foto. Appunto, ma scusa. Non vale 90 minuti, che è terribile. Invece uno che ha molto da dire non è Star Trek. Sì, ecco, meno siamo dalle parti dell'onesto intrattenimento, ecco, non ci vogliono fare... No, beh, no, anche questo si prende pericolosamente sul serio, è vero, ora che mi sto ricordando il film in questione. Sì, Star Trek, diciamo, come è uscito in Italia, Into Darkness trattino Star Trek, di J.J. Abrams, ecco, già questo dice tutto. Ho letto in giro che solo in Italia ha invertito il titolo, non so se sia vero, comunque... secondo me è molto esplicativo, non è più Star Trek, per cui ho messo in chiaro questo, ho messo in chiaro che io non sono un fan di Star Trek, che l'ho sempre visto saltuariamente, ho visto molti film e poco della serie, inspiegabilmente dalla prima serie, quella classica, comunque ho visto episodi di praticamente tutte le serie, Voyager, Deep Space Nine, Enterprise, l'ho sempre seguita, ma non da appassionato, io non ho questo attaccamento tale da giustificare un eventuale odio, parlo del film come ne parlerebbe uno spettatore qualsiasi, credo. Comunque non sarebbe neanche questo il problema, che io quando si rifà qualcosa, quando si ripropone qualcosa, se proprio bisogna farlo, preferisco sempre una lettura nuova, diversa, sempre se questa rilettura funziona. Il primo Star Trek mi era piaciucchiato, nel senso che era tollerabile, però era un action a sfondo fantascientifico come ce ne sono troppi forse. Funzionava, era anche interessante l'idea che il dover ricominciare la serie, rifare il reboot, venisse interpretato in questo modo, no? L'universo parallelo, la linea temporale alternativa. Insomma, funzionava l'idea. Poi era robetta, va bene, ci si divertiva. E qui la situazione è simile. Forse il problema, e quello per cui non ho apprezzato molto, è che ci si diverte un po' meno. Brevemente la trama riprende più o meno da dove era finita, quindi ancora questa versione di Star Trek è un po' riletta, ancora molto legata a un mondo militare, e poi forse l'unica cosa interessante del film, questo cambiamento nella federazione. Comunque Kirk e Spock, insomma tutto l'equipaggio dell'Enterprise, sono alle prese con una missione che a quanto pare non è neanche una missione, comunque sono su un pianeta a impedire un'eruzione, non devono farsi vedere da questa popolazione primitiva che abita il pianeta in questione, ma si fanno vedere immancabilmente. Allora Kirk viene punito nel modo più sbrigativo possibile, gli tolgono il comando dell'Enterprise, che ricordiamo gli era stato assegnato in 5 minuti a lui ventenne solo perché era uno scalmanato, e glielo levano perché è uno scalmanato. Però è una stronzata perché tempo 3 secondi e un terrorista di nome John Harrison, interpretato dal mitico ormai Benedict Cumberbatch, fa un attentato sulla Terra che colpisce una delle basi della Federazione. Quindi bisogna fare guerra a questo Harrison, e Kirk viene reintegrato dopo 7 secondi al comando dell'Enterprise. Poi succedono cose che, vabbè, non vi spoilerò perché anche se sono all'inizio magari vi rimane un po' di interesse. Comunque qualcosa spinge Kirk e compagnia a dare la caccia a questo Harrison sul pianeta, oddio, come si chiama, Kronos, che è poi il pianeta natale dei Vulcania, oddio, dei Klingon, che finalmente si vedono, tra l'altro. E tutto qui. E quindi è un film di guerra e d'azione. È una caciara continua, esplosioni su esplosioni. Tant'è che viene anche meno l'elemento che mi era appena piaciuto nel primo film, cioè quello avventuroso, perché comunque ricordiamo, Star Trek parla di una missione quinquennale in cui questa gente su questa astronave va in giro per la galassia e conosce nuove culture, scopre nuovi pianeti, quindi c'era l'elemento avventuroso, era fantascienza a basso budget, avventuroso, questa è action. Questo lo è più che mai. Ci sono molti effetti speciali, tantissimi, è uno di quei film in cui c'è di vero solo il viso degli attori, ma neanche tanto. E insomma, ci si bombarda, ci si spara l'impossibile addosso, si prosegue questa trama abbastanza stereotipata, si ruota tutto intorno alla solita vendetta da poliziesco, e Kirk che deve fare il poliziotto buono in cerca di vendetta, quindi che non guarda in faccia a nessuno, però ecco, è tutto un po' troppo leggero per un film che poi in realtà si intitola Into Darkness e vorrebbe fare il drammatico, no? Ci sono dei cambiamenti nei personaggi, delle crescite, dei dilemmi anche morali legati a questo personaggio che poi si rivela più sfaccettato, non vi dico nulla, anche se secondo me è chiaro da subito, bene o male, e molti poi l'hanno spoilerato su internet, insomma, chi è, cosa fa questo personaggio interpretato da Cumberbatch. Però appunto è tutto troppo leggerino, cioè vuoi fare intrattenimento di qualità e fallo, ma non avere la pretesa poi di raccontare il dramma con la musichetta drammatica tipica, i morti nei modi più prevedibili possibili, cioè è proprio un'indecisione come molti film di questo tipo, che poi a me personalmente, poi magari a altri non capita, impediscono di godermi quel lato leggero, perché non resta altro da fare, non puoi chiedere nient'altro a questo tipo di film. Però se poi tu mi devi interrompere quella sospensione dell'incredulità, quelle fasi in cui dico, va bene, mi sta bene che i tre si battibecchino in una situazione di pericolo, siano nella nave sotto il fuoco nemico e si mettano a litigare perché questo e quest'altro, insomma, cioè, ci sta bene, anche perché la serie originale aveva un sottotesto più leggero, non troppo, ma c'era. E questo mi sta bene, però se subito dopo mi devi far credere che quel personaggio inverosimile, senza dimensioni, senza credibilità, sia in pericolo, io devo tifare per lui. No, non ci sto, non ci riesco. È specie Kirk che dovrebbe essere il capitano carismatico, il belloccio. E non funziona, è una mammoletta ed anche un po' un burattino, perché non, non ha una dimensione, non voleva neanche arruolarsi, non voleva fare nulla, ha beccato, come si chiamava, l'ammiraglio Pike, e ha detto, oh, arruolati nella federazione, va bene, boom, prenditi il comando dell'Enterprise, va bene. Cioè lui è quello scalmanato perché gli dicono che è scalmanato, si vendica perché si deve vendicare, cioè adimensionale, e quindi questo anche non fa funzionare le parti drammatiche, non c'è coinvolgimento, non si tifa per un personaggio o per l'altro, non c'è il dubbio, si sa che quel particolare cattivo agirà in un certo modo. Anche quando ci fanno dubitare di certe cose, non ci si riesce perché è tutto troppo spiattellato, è tutto troppo da manuale. Alla fine, insomma, un polpettone l'ho definito, sì, perché è tanta computer grafica, un po' troppe pretese, un intrattenimento che funziona e non funziona. Bisogna un po' scendere a compromessi, se ci si riesce ci si sta anche questo, insomma, questa giostra. Io non ci sono riuscito più di tanto, non è un pessimo film, però è, credo, semplicemente insipido, come ce ne sono tanti. Ah, chiudo qui anche perché non va di parlarne oltre. Se c'era stata la dichiarazione di Abrams sul famoso lens flare per i non addetti, è quell'effetto che c'è nel film in cui gli effetti di luce vengono in un certo senso amplificati e poi proiettano queste linee orizzontali o verticali sulla lente e quindi anche sullo schermo. È una cosa che nel primo film era talmente invasiva che sono nate delle parodie. C'era anche un trailer che si intitolava Lens Flare di J.J. Abrams, un ipotetico attacco da alieno che si manifestava con questo effetto sulla pellicola e sugli occhi dei personaggi. E lui dichiarò in un'intervista che sì, effettivamente ho esagerato, non so cosa mi è preso. Qua ce n'è quasi di più, è incredibile. Ci sono pezzi enormi in cui non compare, dice, ah ecco, si era avveduto. No, poi quando c'è un po' di luce che sfonda, è pazzesco. C'è una scena in cui viene inquadrato il primo piano di questo personaggio, sta donna che insomma, si arruola sull'Enterprise, interpretata da Alice Eve, che avete notato tutti, è quella in intimo femminile. Femminile, per forza, una donna che si vede nel trailer. Sì, la bonazza bionda, a parte i giudizi tranciante, è un bel tipo di femminilità. E c'è un primo piano in cui, insomma, lei è spaventata e parla a un personaggio e la parte sinistra inferiore allo schermo è praticamente completamente coperta da questo effetto di luce che copre la sua faccia. Cioè, un quarto dello schermo è coperto da questo effetto orribile. Cioè, io non capisco come cosa passi per la testa a chi lo fa. Cioè, Abrams poi va in cabina di montaggio o chi lo monta al posto suo e lo vede che fa schifo. Cioè, cosa voleva dire? Cosa è il futuro abbagliante, la tecnologia? Va bene, abbiamo capito. Cinema verité. No, è la realtà, vedi quello che ti sta davanti. Non è, a meno che non guardi contro il sole, ma se stai guardando una persona in una stanza, non è normale che tu non veda il suo volto. Siamo in un film, io voglio vedere qualcosa, voglio l'effetto dozzinale. Cioè, è una roba di... E questa poi è la metafora del film. La cosa più interessante che il regista ha da dire su di esso è che ha ridotto il lens flare, che poi non è vero. Tutto qua, mi fermo. Non si era anche incazzato? Perché, insomma, glielo continuavano a dire? Sì, sono varie interviste. Poi ho ricercato per citarlo, ma non ho più trovato la prima. Comunque sì, se detto si parla solo di questo, beh, non è che c'è altro da dire comunque. Fai film. Sì. Poi, in questo forse non c'era neanche un briciolo come si dice? Quello che mettono sempre in Lost, il resto, quello attorno, il viral, ecco. Sì, non c'era neanche nel primo, non mi pare almeno. Sì, avrà fatto una pubblicità un po' più intensiva, ma non mi pare, no. Tra l'altro, ricordiamo, Abrams è il prossimo regista di Star Wars, infatti. Quindi aspettatevi un sacco di cacciara, tanto lens flare e personaggi insignificanti. Io spero che a quel punto sia uscita davvero la tessera a 20 euro. E Star Trek, cosa sono, ormai 2 settimane, 2 weekend pieni, ha tirato su 1,7 milioni in Italia, Superman in questo weekend 1,8 milioni. After Earth è già oltre i 3 milioni, è un floppone, davvero nessuno lo sta andando a vedere. Peraltro non doveva essere solo 3D, poi... No, questo qui praticamente è uscito in, all'inizio, almeno in alcune sale, in entrambi i formati. Poi pare che l'abbiano tolto in 2D, mi diceva un ragazzo su Facebook, che l'hanno eliminato dalla, dai cinema, cioè la, non so chi l'ha prodotto, questo abominio, non mi interessa, vabbè. Hanno comunicato ai gestori delle sale di togliere la versione 2D. È stata una mossa vincente, a quanto pare. Sì, è proprio premiato. Sì, pazzesco, questo è, grazie di averlo ricordato, è un'osservazione interessante, il fatto che comincino a obbligarci o a obbligare i cinema a mettere solo il 3D, cioè non ci va nessuno a vedere il 3D, ci vanno quando sono le persone quando sono obbligate, quando il film magari ispira un po' di più, ma è un flop, una tecnologia che si è confermata una sola, una roba di 50 anni fa, ritirata fuori, ce l'hanno fatta passare per la rivoluzione come il colore, il sonoro, no? Eravamo noi gli arretrati, no? Non ci piaceva, no, questa è una porcheria, e probabilmente spero questa sia la conferma o l'inizio della conferma che è una tecnologia vecchia e morta che non vuole vedere quasi nessuno. Ma tanto basta fare come Castelletto, il cinema nostro, che chiude le sale 3D per tutta l'estate, quindi... un altro sintomo, no? Tanta gente ci va, non vale neanche la pena tenere aperto il 3D. Ma... Sì, Star Trek, sarò breve. Sì, anch'io mi sono divertito. Però stavo ripensando oggi, quando magari mettevo giù due righe per il podcast... che non me lo ricordo neanche, è stato 2 settimane fa. Durante la visione mi ricordo di essermi divertito, ricordo qualche scena, la strappona bionda, il lens flare, gli StarTAC che ancora usano, che useranno persino nel futuro, che effettivamente sì, sono gli stessi della serie originale. Mi ricordo quell'inizio terribile che non serve a nulla perché non cambia niente, è proprio una cornice... che non ha senso, ti tolgo il compito, ti tolgo il comando, eccoti il comando, ti tolgo il comando, e non è successo niente, togli i primi 20 minuti, metti che sei andato al cesso, o hai parcheggiato e quindi ti sei perso l'inizio, non ti sei perso niente, perché non è successo niente, vabbè, bello, e poi che sì, che nella seconda parte forse si siede un po', ma forse ero io stanco, mi sono seduto io. Per il resto sono sempre stato in piedi, infatti quello dietro a me al cinema dice: "Oh, non vedo niente!" E si riprende con quel finale a piedi, però è molto carino. Però sì, non me lo ricordo, oh, non me lo ricordo, non è possibile che un film di intrattenimento, va bene, intrattenimento di solito sfuma abbastanza velocemente, ma addirittura in 10 giorni, terribile. Io ho Però... dovuto rileggere la recensione, perché non sono nelle stesse condizioni. Il primo non mi era piaciuto così tanto, non che questo sia un capolavoro, questo mi ha divertito di più, il primo meno, però me lo ricordo di più ed è passato 3 anni quasi, no? Questo 2 settimane, terribile, o la mia mente che sta vagando ormai alla deriva o è un film che è un fiammifero. Però adesso che ho iniziato la serie originale di Star Trek lo sto rivalutando a bomba. Questo sì che è cinema, questo sì che mi tiene sveglio. Sì, ecco, non invecchia molto bene. Ma se, Ma se, malissimo proprio. e beh, poi le prime sono terrificanti. Anche le trame sono davvero esili. Meno male che avevano solo quei maglioni, così almeno ogni tanto mi faccio una risata. O Spock è tutto giallo, proprio Sì, anche in pelle. soprattutto della prima, la seconda sfuma, poi comincia a tornare a un colorito normale. Non so, all'inizio, i vulcaniani mi piacevano gialli, poi probabilmente la pelle non respirava ed è collassata. No, leviamoglielo il trucco. Anzi, no, non è Spock, scusate, è Spack, lo dico in italiano. Stranissimo, vabbè. Comunque sì, la porterò a compimento, dai. Ormai, ormai cosa, visti uno. Solo 70 episodi. Sono 29, 29, No, forse una delle tre dura di più, non mi ricordo. oh. Oh, Madonna, siamo più di 100 quasi. Vabbè. Sì, nuovo film. Stoker. Sì, dai. Cos'è? Stoker, tocca a te. Allora, Stoker, io l'ho visto di ritorno da Alessandria che ero stanchissimo, però fa niente, questo lo volevo dire. Allora, Stoker, primo film in America di Park Chan-wook, anche lui è stato comprato in questa specie di campagna acquisti. o come ha scritto nella recensione, è uno scouting talent, vanno a prendere in giro i registi, ma poi stranamente li mandano via dopo un solo film, a parte pochi, ho già detto Ang Lee e John Woo, che sono rimasti parecchio, uno si è portato a casa anche due statuette. Park arriva in America e gli danno subito un film scritto dal detenuto di Prison Break, Wentworth Miller. Di che parla questo Stoker? Te lo sei chiesto? No, dello scrittore di Dracula. Sì, è vero, parla di vampiri, anzi parla di scrittori di vampiri, quindi i vampiri non ci sono. E tra l'altro i vampiri c'erano nel film precedente di Stoker. di smettere, sì, Thirst. Tra l'altro il più odiato di... È l'unico che mi manca, purtroppo. Tanto che molti hanno detto, cioè i suoi fan che hanno amato questo, hanno detto, un ritorno, perché lo davano un po' per morto. In realtà poi c'è anche chi ne parla benissimo. Vedetelo, perché chissà che non vi sorprenda. Manca solo quella, poi lo farò. A Stoker, protagonista è questa ragazzina che ha appena compiuto 18 anni, che si chiama India Stoker. Piccola parentesi, c'era una bellissima recensione di un sito inglese che lo massacrava, non si capiva bene perché, e ha speso due paragrafi davvero con astio chiedendosi perché non l'ha chiamato India Stoker. Perché ha levato India dal titolo? Ma come si permette? Non lo so. Ma l'ha visto il film? Non lo so. C'è anche un perché, in un certo senso, per cui boh. Era molto divertente, come cosa. Non so, agli inglesi gli tocchi l'India, sono ancora arrabbiati, sì, in qualche modo. Ma li vogliono, in un certo senso. Sì. Al giorno del suo compleanno, India viene a scoprire che suo padre, Richard, era partito mattino per un viaggio, non si capisce bene dove, perché e basta. E a causa di un tragico incidente è morto, si è schiantato con la sua macchina ed è, se non sbaglio, bruciato vivo, quindi anche il cadavere non è stato ritrovato. Il giorno del funerale compare dal nulla lo zio Charlie, uno zio piuttosto giovinotto che la famiglia Stoker non aveva quasi mai visto. India di sicuro non l'aveva mai visto né conosciuto, sì, ovvio, se non l'ha mai visto, ma ancora conosciuto, ma neanche la madre Evelyn mi pare che l'avesse mai conosciuto. No, si parla di lui, è sempre stato in viaggio prima di, sì, quindi non, in realtà ne conoscono l'esistenza e basta. E compare per la prima volta nelle loro vite per aiutarle a superare questo difficile momento, per rincuorare soprattutto la vedova. India è una ragazzina piuttosto strana, la classica ragazza che c'è in ogni classe, tipo la Sacco da noi, solo che questa è molto bella, quella che non parla mai con nessuno, molto introversa, che non si lava parecchio, anche pericolosa, che è parecchio violentina questa India, e lo zio Charlie va a braccetto con lei, è un personaggio strano, ha un sorriso gelido, è una persona che mette i brividi solo a vederla, sembra tanto buono e tanto caro perché non ha di certo l'aria da criminale, però si capisce che sotto c'è qualcosa che non va. E questo porterà a alcune rivelazioni che non sto a dire qua. Come ho scritto nella recensione, Stoker non mi ha convinto appieno. Mi è piaciuto, soprattutto dal lato visivo. Tutte le scene sono costruite in un modo meraviglioso. Dalla fotografia, appunto, di suo fedelissimo, che si chiama Chung Hun Chung, molto bella. Ma proprio la costruzione delle scene, dell'immagine molto bella. Purtroppo, ed è questo un po' il lato negativo di tutto il film, è che sa molto di costruito. Per esempio, la scena in cui India è sul letto ed è attorniata dalle sue scatole, delle scarpe che ha avuto fin da bambina, cioè ogni anno suo padre gli regalava un paio di scarpe sempre uguali, da quando aveva un anno a 18 anni, È bellissima da vedere perché sembra quasi un quadro o anche una conchiglia, questa specie di spirale, molto bello, però è costruito. E tutte le scene, anche quella che ho citato, anche quella nei sotterranei che lei fa sbattere le lampade appese in aria, sono tutte bellissime da vedere, ma sono tutte costruite. E anche la stranezza, il livello di strano, di weirdo che c'è nel film, sia in India che nello Zio Charlie, anche quello sa di finto, di costruito, è tutto così distaccato, creato a puntino. Molto bello da vedere, ma tiene distanti. Per il resto, la sceneggiatura, quindi sì, dal lato visivo è meraviglioso. Dal lato contenutistico, la sceneggiatura non è che sia sto granché, sembra appunto che Park si renda conto che in mano non ha granché. Dopotutto è un thriller abbastanza già visto. Vi citerei un film di Hitchcock, lo cito. Non so se. Pronto? No. Sì, dico, tanto è citato direttamente. Lo so, ma magari non l'hanno ancora letta. Eh beh, ma Sono. chi ha visto il film di Hitchcock in questione, vedendo il film, secondo me capisce subito. Chi non l'ha visto non capisce il riferimento, quindi non si rovina il film. Ah, vabbè. Però vedi tu. Ma sì, è l'ombra del dubbio, ecco. non è spoiler, poi prendono due vie abbastanza diverse, però sono di base sono abbastanza simili. Quindi sì, è un thriller. Con colpo di scena abbastanza visto, non troppo visto, non è zeppo di cliché, non è telefonatissimo, però è qualcosa che non è la trama la cosa migliore. Di solito era proprio questo il bello dei film di Park. Erano sempre delle storie strane e anche se non erano dei filmoni come regia, come fotografia, eccetera. Erano belli di sceneggiatura, di storia, erano particolarissimi, praticamente tutti. Adesso quello Thurston, non so, però vabbè, no, sta ripartendo il traffico. ok, e sì, un aspetto molto interessante della sceneggiatura era quello morboso, quello scandaloso, perché dopo tutto è anche un percorso di maturazione di India, il film, sì, è un Bildungsroman, come si dice, perché India da ragazzotta, da ragazzina, piccola e una teenager, insomma, cresce anche grazie allo zio Charlie e grazie a quello che succede nel film, e conosce anche la sessualità durante la pellicola. C'è molte scene che virano sul sesso, sullo scandalo, anche con la madre e anche con lo zio Charlie, solo che sembra che cioè è un fattore, un elemento che non è stato sfruttato a dovere durante il film. Sono alcune scene, cioè, si crea questo triangolo quasi amoroso tra lo zio, la madre Evelyn, interpretata da Nicole Kidman, e India, che potrebbero portare a qualcosa di più interessante, niente, si fermano lì. Quindi, boh, in definitiva, mi è piaciuto. Se proprio devo dargli un voto, è molto più della sufficienza, un 7. Però non mi ha convinto in pieno. E come ho detto all'inizio del podcast, vedo questo Stoker come una parentesi in Park. I suoi film sono rimasti a Thirst, poi proseguiranno, tanto credo che in America non rimanga, soprattutto perché è stato un flop poderoso e ha incassato davvero pochissimo. Ultime parole le voglio spendere su Mia Wasikowska, che in questo film dovrebbe essere un cesso, appunto dovrebbe essere quella ragazza che nessuno si fila, e invece anche qui è bellissima. Era bellissima in Jane Eyre, dove doveva essere brutta, è bella in ogni film dove lei non fa mai la bellona, eppure è sempre meravigliosa, ruba la scena. C'è anche qui un pezzo sotto la doccia che si vede anche qualche capezzolo, oltre a altre cose. che lascia il segno. Poi, insomma, qualsiasi film con lei è meraviglioso. Poi anche Nicole Kidman, dai, non è così sì, brutta. Ogni tanto ci si ricorda che c'è anche lei. Ma anche perché non ha tanto spazio. No, infatti molti sono lamentati proprio di questo, un personaggio meno presente, ma non capisco il problema, cioè, non volevate vedere più lei, che il personaggio è marginale, insomma. Sì. Ah, chiudo sì, con le musiche che mi sono piaciute tantissime. Una proprio di Philip Glass che si chiama Duet, perché è un duetto al piano tra lo zio e India, che è bellissima. E stranamente non sembra neanche di Philip Glass, visto che lui fa sempre musiche abbastanza simili. E poi Summer Wine di Nancy con Nancy Sinatra e un altro che adesso non mi ricordo. Anche questo è un duetto. Ed è stato appena rifatto da Lana Del Rey. Beh, niente, questo volevo segnalarlo perché anche la versione di Lana Del Rey è bellissima. E vai, vai, vai, Sì, una canzone bellissima, usata da Dio, poi secondo me. vai. E mi aggancio, ve lo dire subito, perché mi è piaciuto, una delle varie ragioni per cui mi è piaciuto, perché dicevo all'inizio, non è il regista asiatico creativo che va in America e fa il film anonimo, americano. Sì, ha fatto un film profondamente americano, e questo che mi piace. Cioè, non dico che potrebbe averlo diretto chiunque, attenzione, dico che però è talmente bravo lui che riesce a fare un film americano molto bello, cioè negli stilemi, nella storia, che vabbè non è tutta sua, però come la racconta, per quello che fa, è un film ben mascherato, ben nascosto, è bravissimo, a parte che poi è girato da Dio, come tutti i suoi film, c'è una cura, sì, chiaramente negli altri magari colpiva più la sceneggiatura, la storia, erano storie profondamente drammatiche, poi secondo me il trucco è che stiamo parlando di cinema coreano, che è molto lontano dal nostro, da quello americano, quindi si va sul sicuro. Sono ottimi film, però chiaramente per noi occidentali sono più forti, più efficaci. Quindi vederlo alle prese con qualcosa che per noi è più convenzionale ha un effetto strano, però a me è piaciuto. E l'effetto, sì, abbiamo detto, la sceneggiatura, però ripetiamo, intanto è un esordiente, credo. Sì. Quindi non è una scusante, però si vede che è un esordiente, si vede che è uno che voleva fare un teen drama, cioè una via di mezzo tra questo genere, comunque questi drammatici legati al mondo dell'adolescenza, e forse, visto che l'omaggio è evidente, sfacciato a Hitchcock, probabilmente è il tipico appassionato di cinema, che voleva fare il film hitchcockiano, ma anche legato alla sua generazione. E si sente, secondo me, un po' acerba come sceneggiatura, proprio da questo punto di vista. È un appassionato che si cimenta. Però mi piace molto come invece Woo Park ha valorizzato questo aspetto. Cioè, lui non è un regista americano, ovviamente non è Hitchcock, però ha fatto un film che, secondo me, nell'estetica potrebbe benissimo essere stato girato da un Hitchcock ancora vivo. Cioè, ci sono delle cose davvero pazzesche. Intanto dei titoli di testa che a me hanno ricordato, ma sfacciatamente, quelli di Saul Bass, ma proprio di brutto. Quelle scritte inclinate, quelle che si storcono anche, magari c'è una bellissima, una delle scritte viene schiacciata da una pietra che lei fa rotolare, poi non la muove, quelle pietre rotonde che ci sono in giardino, no? Sì, Non so se ti hai sì, presente. sì. Lei sembra che la stia spingendo, ovviamente non ci riesce perché è enorme, ma la scritta si schiaccia sotto il peso. E mi ha fatto pensare a Saul Bass, così, cioè, mi viene il titolo inglese, North by Northwest, Intrigo Internazionale, queste scritte inclinate che si muovono seguendo le linee di quello che c'è davvero sulla scena. Già da lì ho trovato forte questo omaggio e l'ho gradito subito. E poi in generale è girato, e soprattutto anche in certe scene che magari sembrano un po' di maniera, per omaggiare un po' quel tipo di trovate che usava Hitchcock per rendere grande il suo cinema, quelle inquadrature meno anonime. Quei tagli dell'immagine particolari. C'è una scena bellissima quando c'è un poliziotto che si presenta a casa degli Stoker, e c'è insomma India che gli parla e lo zio la osserva, sembra che sia dietro uno spigolo, si è appoggiato a una parete, alle sue spalle si svolge questa scena con India e il poliziotto. Poi la macchina da presa si sposta un po' indietro e lui comincia a camminare, e capiamo che quello alla sua sinistra non era lo sfondo con India, era uno specchio. E quindi lui si muove verso la macchina da presa e va incontro a India. È bellissimo, è una cosa semplice, però cacchio che bella, lì sono davvero sono davvero emozionato un po', perché è difficile vedere film girati bene. E poi, non so, io non l'ho trovato così di... insomma, sì, è un esercizio di stile, ma lo è perché la sceneggiatura è quello che è, e lui si diverte a omaggiare quel cinema, quel regista. Però a me è piaciuto molto, anche sì, le scene con la luce in cantina, le scarpe, sì, quella è un po' così, un po' costruita, ma è una scena secondo me astratta, un'astratta è quasi sempre costruita. Poi a me più che a una conchiglia ha fatto pensare a un orologio, cioè queste scarpe messe intorno a lei sembrano le ore di un quadrante, sembrano i minuti, e poi rappresentano il tempo che passa, dalle scarpe piccole di quando era neonata a quelle grandi da adulta, quindi è proprio un orologio sul suo letto, e è molto bello. Poi sì, lei è stupenda ed è anche bravissima, davvero un'attrice giovane che ha fatto anche pessimi film, tipo Alice in Wonderland. A me piace davvero tanto, ha un viso che qui è perfetto, perché ha questi capelli scuri che li incorniciano il viso, e lei fa la faccia da un po' da stronzetta, no? È molto cattiva con lo zio Charlie all'inizio, quando lo guarda dall'alto in basso sulle scale, in molte scene è perfetta, è una bad girl molto convincente. E poi sì, nonostante tutti gli effetti della sceneggiatura, mi piace perché come si conclude, come si apre, è una storia che tratta la famiglia in modo particolare, sì, è sulla crescita di India, sulla perdita dell'innocenza, lo dice il sottotitolo italiano, comunque la frase promozionale. Qual è? No, non è il sottotitolo, comunque su Notturno, sulla copertina in fondo c'è la pubblicità, e se non sbaglio c'è una frase tipo legata comunque alla perdita dell'innocenza, se non proprio la perdita dell'innocenza. Ed è chiaro, insomma, lei è la protagonista, quella è la sua storia, una crescita sessuale, psicologica, in fondo è una bambina anche se matura, ma è un po' bloccata, un po' chiusa, ma è anche appunto la storia di questo sangue che non mente, questo riscoprire certi valori familiari in modo molto grottesco. Quindi alla fine non la butto via completamente la sceneggiatura, è un po' acerba, ripeto, però io l'ho trovato un ottimo film per, ripeto, un regista che è in trasferta, secondo me è un'esperienza davvero significativa, insomma. Spero certamente che torni a fare i suoi film, ma non voglio che continui a fare la trilogia della vendetta, cioè non pretendo questo, è giusto che si rinnovi, che rimanga insomma il regista che ci ha fatto innamorare. Qui non credo si sia venduto del tutto, semplicemente si è piegato a una necessità, però ecco, non mi dispiace del tutto, come parentesi, è davvero un ottimo film, secondo me è uno dei migliori dell'anno, mi sbilancio. Ah, mi sa che ti licenzio in diretta. Va bene, invece sei porro, come fai a non licenziarti? Sarebbe bello adesso dire da uno dei film più belli dell'anno a uno dei al più brutto, invece no, in mezzo c'è Superman. Che c'è in mezzo? Ah, vabbè, sì, facciamo prima Superman. Vabbè, no, è indifferente, tanto sono comunque film brutti in proporzioni diverse. E allora quindi, vabbè, andiamo. No, vabbè, vai. Facciamo un crescendo. Questo era bello, questo qui è è brutto, ma non così tanto. Quindi sì, Superman, ne parlo brevemente, non l'ho neanche recensito perché non ne avevo voglia, sono pigro, sono sotto esame, abbiate pazienza, poi non vale la pena. Non dico neanche la trama perché ci mancherebbe altro, la sapete a memoria se avete avuto un'infanzia, e il film è a tutti gli effetti una sorta di remake reboot, che ne dicano i fan affannati di cinecomics, perché è un rifacimento del primo film, insomma, c'è poco da girarci intorno. L'attacco alla Terra di Zod che fa quello che deve fare, vabbè, non vi dico altro. E quindi passiamo subito al film. Vabbè, Snyder, no, io sono uno di quelli che lo odiano, semplicemente mi è indifferente, che è molto peggio. Watchmen era un film onesto, ma appunto un prodotto davvero sterile, ripensandoci, ha delle bellissime scene, e questo è il problema di Snyder, ti azzecca qualche scena, ma perché... insomma, se spari nel mucchio qualcosa becchi, una scena la devi fare bene, però il resto è di contorno, è un collante. E poi fa questi film, come molti registi di oggi, di 120, 140, 130 minuti, questo mi sembra sia di 130 minuti, e per forza, come se un'ora e mezza non bastasse, no? Sennò è l'arroganza anche del registucolo che fa il cinecomics, cioè il film su Superman, ora vabbè. Diciamo, c'ha ragione Cronenberg, quando fai film su gente in calzamaglia puoi girarci intorno quanto vuoi, ma è difficile realizzare qualcosa di non grottesco ancora. Nolan ci è andato vicino con quello che ha fatto, ma insomma, con dei limiti. E Superman, secondo me, è un personaggio che ha molti limiti in questo senso, cioè non puoi fare come con Batman, che lo viri al noir, lo rileggi e un pochino funziona. E Superman è Superman, cioè o lo fai com'è o non lo fai più. E quelli che dicono che questa è una rilettura più adulta, secondo me non hanno idea di cosa vuol dire adulto. Poi questo aggettivo che viene usato a oltranza proprio con i cinecomics sarà una cosa inconscia per negare che sono ancora un po' dei bambinoni e non c'è nulla di male. Però c'è questa tendenza a dire film adulti, una rilettura più adulta, e non c'è nulla, è il primo Superman, con la tecnologia che possiamo permetterci oggi, quindi ha corretto, diciamo, quello che non funziona più nel vecchio Superman, no? Gli effettacci dozzinali, il volo fatto con i fili, e, insomma, trucchi proprio dozzinali, è stato sostituito con la computer grafica, tanta computer grafica. E va bene, ma il problema è questo, cioè ha rinnovato gli aspetti obsoleti di quel film, quindi ammetto che dal punto di vista tecnico sia perlomeno gradevole, comunque riuscito, ma per il resto siamo fermi al film di che anno era? Anni 60, 70, non mi ricordo. Ma anche prima, il fumetto, insomma, è quello. È davvero un film vecchio in tutto, non è che ha cambiato, sì, ha escluso certi passaggi... Non lo nominano Superman perché siamo nel 2013 e basta, anche se poi Superman lo nominano lo stesso, non dicono il nome, insomma, cercano di evitare di fare la cosa tipica di queste letture, no? È la versione più moderna, quindi dobbiamo superare certe cose, no? Niente occhiali, niente nome, niente giornalismo, e poi ci cascano, senza spoiler, ci si arriva al Superman convenzionale. Però è tutto lì, c'è la solita roba. Hanno compresso la storia dell'originale, o almeno ti danno l'impressione che l'abbiano compressa. In realtà è solo una valanga di flashback che ti vengono propinati nel corso delle 2 ore, e così tu hai l'impressione, ah, non mi hanno raccontato di nuovo la stessa storia di Superman che arriva sulla Terra. No, abbiamo rivisto, è come Spider-Man, lo rifanno e ci dobbiamo ribeccare le origini di nuovo. Cazzo, ogni volta, queste cose... Il 15° film su Superman, vabbè, gli altri erano tutti sequel, e forse per quello funzionava, anche il bruttissimo Superman Returns, era un sequel, cioè aveva quasi un suo significato, questo è un remake, che ne dicano, rifare per l'ennesima volta Superman, l'ennesima volta la stessa estetica, solo bombardata, amplificata, lui è più grosso, vola più veloce, colpisce più duro, sì, sono delle belle scenette, perché io mi sono divertito, però il problema è che per vedere quelle belle scenette, devi aspettare 90 minuti, cioè 90 minuti, sì, succede qualcosina in mezzo, lui che salva i ragazzini dal pulmino, che salva gli operai sulla base petrolifera, però è una brodaglia di 90 minuti, poi arrivano, si menano un po', un bel po' di inverosimiglianze, un po' di fantascienza spicciola, e ti sei sgonfiato le palle, perché l'azione che io speravo di vedere, perché, ho detto, mi incuriosiva, avrei voluto vederla, l'ho visto, perché volevo vedere, insomma, Snyder se riusciva a divertirmi per una volta in un film d'azione, e non ci riesce perché ti devi sopportare tutto il resto. Sono in realtà stringi pochi minuti di vera azione, confusa, non alla Transformers ma quasi, perché sì, la velocità lo richiede, e il risultato è anche un po' più bello di quello che era in Transformers, però... Cioè, non ne vale davvero la pena, rivedere il vecchio film con gli effetti speciali aggiornati, come la versione rimasterizzata, a proposito di Star Trek, non capisco, e sta andando abbastanza bene, ottime recensioni, incassi poderosi, sì, non ha superato, cioè non credo abbia recuperato il budget, però ha fatto credo abbia fatto quasi un record la prima settimana, cioè sta andando benissimo, la gente che ne parla come se fosse il Padre Eterno. Davvero, l'ennesimo polpettone supereroistico, ancora ne facciamo, ancora incassano purtroppo, e quindi se ne continueranno a fare. E boh, basta, dai. Neanche quando hanno un soggetto che dice, lo faccio in maniera più spensierata, no. Come Star Trek ci devono mettere il dramma spicciolo, perché poi è davvero insopportabile. Cioè dovremmo tifare per Superman quando sappiamo esattamente quello che succederà, che non fallirà, che non si schiererà con i cattivi, perché poi il film si gioca su questo, no? Arrivano i kryptoniani e lui deve decidere, gli umani o Krypton? Cioè, dai, c'è il dubbio davvero. È un personaggio, davvero, che se era piatto negli originali con Christopher Reeves, qui è ancora più piatto. È un burattino in mano ai due padri, perché c'è Russell Crowe che fa Jor-El, che gli dice, ah, tu sei il ponte tra due culture. E lui dice, sì, sono il ponte tra due culture. Kevin Costner che gli dice, devi nascondere la tua identità. E lui, per 30 anni non fa nulla perché deve nascondere la sua identità. Cioè, questo Superman chi è? Cioè, che cos'è? È il superuomo, ma è davvero un personaggio che non esiste. È una calzamaglia, un po' di computer grafica, è il ciuffo, e il suo bel faccione. Poi l'estetica c'è, l'attore funziona, il costume è un po' meno ridicolo, ma davvero... Ho letto discussioni sui forum, 10 pagine a parlare del nuovo costume. Ma chi se ne frega, dai, basta. Visto che fanno sempre il solito film su Superman, sarebbe bello uno finalmente in chiave moderna. Cioè il giornalismo oggi è in piena crisi, soprattutto quello cartaceo. Quindi, va bene, la prima parte sarebbe la solita. La crescita nell'Indiana, lì dove cazzo sta Smallville... Kansas. Ma sì, uguale. Dove cresce, la fattoria, gli animali. E... Poi va... Dove sta? Capital City? No, non è New York. Com'è? Metropolis. Metropolis. E va bene, sei un supereroe, cioè la potenza, voli, ma il lavoro non lo trovi. E sarebbe quello il bello. È lui che deve andare nelle agenzie interinali o fare lo stagista che porta il caffè, che porta i documenti. Che arriva a fine giornata, che non sa se hai soldi abbastanza, che pensa di tornare a fare il contadino. E quello sarebbe interessante. Poi ogni tanto, ma sì, tira un cartone a una cabina, la distrugge, così. Però il punto sarebbe che oggi sarebbe in crisi un supereroe che vuole fare il giornalista. Anche Peter Parker, magari si incontrano in una scena, ma tu c'hai il lavoro... Invece c'è una scena fenomenale, la spoilerò perché tanto non è parte della trama, è il classico pezzo dopo i titoli di coda, no? Quello che dicevo, lui non è giornalista, no? Fa il giramondo, non vediamo nulla di lui, vediamo questa infanzia raccontata male e questa età adulta così, e poi alla fine lui cosa fa? Quello che hai appena detto, cioè paradossalmente, dice boh, vado a fare il giornalista, ma noi non sappiamo se è laureato. Vediamo, non sappiamo nulla di lui. Lui dice vado a fare il giornalista, si mette gli occhiali in ascensore e rincontra Lois e dice ciao Lois, cioè vuoi fare pure la morale che non è più il vecchio Superman e poi ci ricaschi in pieno. È davvero un Superman che sta in fattoria, scopre che la gente mette gli OGM, mette la roba chimica, se incazza e li ammazza tutti, quello sarebbe interessante. Sì, ecco, anche quello, un seguito almeno, e lui torna appunto dopo che ha fallito come giornalista. Giù le mani dalle mie patate, solamente là. Sì, e ribalta il trattore, gli cade addosso. Chiama Lessi. Sì. Comunque è un appunto. Amy Adams è fenomenale perché il suo personaggio potrebbe benissimo non esserci. E la Lois Lane meno significativa. Poi è un peccato vederla qui, ma è un peccato anche vederci Michael Shannon, anche se è molto bravo. Ed è uno Zod credibile, ma il pazzo gli viene facile. Ma Amy Adams, compare lì, lei fa il reporter d'assalto, va nei posti assurdi a cercare cose assurde, vabbè, si imbatte in Clark. Ma poi è tirata in mezzo alla trama solo perché vede una cosa che le servirà per salvare la Terra, e boh, ma questo giustifica il fatto che poi lei va sui bombardieri insieme ai militari a schiantarsi contro le navi aliene, cioè è davvero fuori dalla realtà. E quindi lei è un peccato, una cosa bella, e forse la cosa più bella del film, è l'attrice che a me piace tantissimo, che interpreta, non so se si chiama Feora, comunque una dei kryptoniani, che si chiama Antje Traue, è un nome impronunciabile, credo sia tedesca, ed era anche in Pandorum, era una donna bellissima, qui è ancora più bella, e peccato che faccia solo film che non mi interessano, vabbè Pandorum era quasi salvabile, però è un bel viso, una cosa molto esotica, degli occhi da sturbo, qui davvero poi è in parte, perché sembra quasi un'aliena. Bella, non lo so ricordare perché è una bellissima attrice, brava non lo so perché ha fatto solo film in cui c'era poco da vedere, lei si vede il suo viso per qualche decimo di secondo, il resto è computer grafica sparata a 100 all'ora, come tutto. Invece sai un'attrice bellissima e bravissima, chi è? Di chi è? Claudia Gerini. Ah, così finalmente chiudiamo questa puntata di 2 ore, dura più di Superman. C'hai dell'estate. È vero, ve l'ascoltate con calma, ci avete un paio di mesi, e vabbè, parliamo finalmente del film dell'anno, in un certo senso. Io ci speravo un sacco, e sapete che sono un appassionato di horror e soprattutto di cinema italiano anni 70, non sono a livelli professionali come competenze, ma insomma, mi accontento. E, quindi lo aspettavo, poi anche perché Zampaglione, insomma, un Shadow, non dico come mi aveva fatto sperare in un mondo migliore, però... Insomma, mi aveva convinto, era un regista italiano che faceva un horror, un po' di mestiere, un po' americano, però era girato bene. e poi verrò a uno dei punti strani di questo tulpa, che non sembra girato da lui, oppure Shadow non era girato da lui, c'è qualcosa che non va, non può essere lo stesso regista. Comunque, insomma, scusate, paragonato a tanti altri esordienti, tipo lombardi, albanesi e altri meno noti, come i Manetti Bros, anche, non dimentichiamoli, era uno che, no, almeno la messa in scena la azzeccava. Quindi dice, vabbè, cazzo, il filmetto ha questo finale un po' gnè, è anonimo, però dai. E quindi ci credevo un po', anche perché poi poteva essere l'occasione per spingere un po' sul cinema di genere italiano, che è stramorto. Quindi hanno annunciato questo tulpa, omaggio subito dichiarato a Giallo Argentiano, poi ricordiamo Argentiano perché si ricordano tutti di Argento, ma l'ha inventato Bava con Sei donne per l'assassino, che poi Argento ha, non dico copiato, ma pesantemente ricalcato. E quindi un assassino mascherato, delitti spesso inverosimili, insomma li conoscete, guardate Il gatto a nove code, Profondo Rosso, L'uccello dalle piume di cristallo, ma anche tutti i cloni di Martino, di Lenzi, insomma, tutto quel cinema che è venuto fuori. E comunque, la trama rapidamente, Claudia Gerini è la protagonista, si chiama Lisa, è una donna d'affari, almeno così ci fanno credere, ma lavora in un ufficio che non sembra affatto un luogo reale, e la sera si ritira in un club che si chiama Tulpa, quello che poi dà il titolo al film, in cui si fanno, qualcuno dice, frequentato da scambisti, ma non mi sembra che sia chiaro questo aspetto, non so dove l'hanno preso. Semplicemente si fa l'amore con delle persone, si fa del sesso estremo o no, con degli sconosciuti che devono rimanere tali, quindi completo anonimato. La cosa già strana è che si nota subito che questo club è in un parcheggio sotterraneo. Vabbè, fa molto underground, però è strano, è una cosa che fa già storcere il naso. Comunque, mentre vediamo la sua vita, la sua routine, si cominciano a verificare dei delitti. E sono dei delitti che in qualche modo vengono collegati al locale Tulpa, ma non dalla polizia, che è assente in questo film, né da un investigatore, ma dalla Gerini, che dopo metà film abbondante se ne accorge leggendo un giornale. Quindi non c'è l'elemento chiave di questi film, l'investigazione, l'indagine, non per forza di professionisti, magari del protagonista che si cimenta. Voi direte, vabbè, è un segnale di cambiamento, ma non credo, e tutto il resto è terribilmente simile a quei film. Quindi è, secondo me, una mancanza, perché è un elemento che crea subito confusione. Non c'è una linea narrativa, non c'è un interesse anche da parte dello spettatore a scoprire chi è questo assassino, cosa lo muove, perché nessuno ti incuriosisce. Tu vedi i delitti e, visto che sono l'unica cosa quasi riuscita del film, semplicemente vuoi continuare a vederli, soprattutto per non vedere il resto. E però è tutto così, una serie di scenette di vita che sono poi grottesche davvero, perché quelle notturne, ripeto, i delitti, la frequentazione del club, quindi tutte le parti a luci rosse, a luci spente, insomma, poi c'è un uso del neon all'interno del tulpa che vabbè, fa pensare subito a Solo Dio Perdona. Tra l'altro, questo ricordava il Monco, questo film è stato girato prima. Madonna, tosse, scusate. Chissà che il Ref non l'abbia visto a qualche festival e abbia pensato di farlo, ma molto meglio. Comunque funzionano, sono girate quasi bene, visivamente accattivanti, proprio per quest'uso della luce, e perché ricordano molto i gialli anni 70, ma poi ci sono le scene diurne che sono terribili. E intanto c'è una fotografia patinatissima, molto illuminata, pesantemente, siamo quasi il lens flare di Star Trek, che è una cosa davvero irritante, roba da fiction. Qualcuno ha detto, sembra di guardare una fiction televisiva, effettivamente il paragone funziona. E poi, questo l'hanno fatto notare, io ci ho fatto meno caso, a volte sono distratto da questi film così belli, ci sono anche dei pesanti errori di regia, errori proprio da scuola di cinema, cioè lo scavalcamento della linea di 180 gradi. C'è quella regola che dice di non scavalcare la linea che collega due personaggi che si parlano. Se un personaggio è a sinistra, devi sempre lasciarlo sulla sinistra, anche cambiando inquadratura. Se no, sembra che sei spassato dall'altro lato della linea e si sono invertite le parti. Non devi creare questo tipo di confusione. E pare che succeda spesso, almeno nelle parti diurne. E per questo dico, è strano pensare che Zampaglione sia lo stesso regista di questo film e di Shadow. Perché quello era girato con competenza. Questo è davvero amatoriale, come i film di cui parlavo all'inizio, di Lombardi, Albanese, no? Roba delle brutture mica male. E poi è davvero inconsistente, è noioso, dura 90 minuti e per le ragioni di prima, cioè l'assenza di un filo conduttore e di una qualsivoglia coinvolgimento, tentativo di creare coinvolgimento con personaggi, storie, no, nulla, cioè è tutto piatto, tutto grottesco e ci si annoia a morte, si aspettano queste scene notturne, questi omicidi che davvero sono spesso al limite del grottesco, sono proprio simili a quelli che vedevamo in quei film, quelle morti alla Saw quasi, improbabili spesso, no? Un assassino vorrebbe fare in fretta e nascondere le prove, invece no, sono sempre più colorite le morti, sempre più elaborate, a volte troppo, come quella con il filo spinato usato insieme in combinazione con un carosello, no? La giostra dei cavalli dell'Eur. Qualcuno dice un Eur surreale, un Eur notturno che non avete mai visto. No, è inquadrato di notte con una fotografia blandissima. L'Eur l'ho visto già abbastanza, è un postaccio, no? Non c'è bisogno di vederlo nei film. Insomma, è tutto tanto approssimativo nella scrittura e ricordiamo, lo dicevo forse nella parte delle domande, la sceneggiatura è di Dardano Sacchetti, quindi quello di Zombie 2, di Paura nella città dei morti viventi, insomma i film di Fulci storici, e per molti è rimasto un punto di riferimento. Secondo me quei film non sono azzeccati per via della sceneggiatura, sicuramente quello che c'è di buono nel cinema di Sacchetti lo hanno fatto i registi, secondo me sono un regista molto sopravvalutato e soprattutto uno sceneggiatore molto sopravvalutato e un uomo che è arrivato alla sua età e che davvero non deve per forza lavorare, cioè sembra quasi che per fare l'omaggio ci voglia il nome del vecchio, ci vuole Stivaletti agli effetti speciali, che qui per fortuna non c'è, Argento alla regia, Sacchetti alla sceneggiatura, no, facciamo davvero lavorare i giovani, perché qua i rincoglioniti ci sono, cioè sono rincoglioniti, diciamo, ancora questa voglia di salvare il maestro. Ma il maestro di che? Questi non biascicano, non sanno fare più il loro lavoro, perché sfido chiunque a dire che, vabbè no, c'è chi lo fa, che Argento sa ancora dirigere. Secondo me non lo sa fare da vent'anni. Air traffico. Air traffico, davvero, c'è un'idea che bisogna risollevare, resuscitare questo cinema, e come lo fanno? Resuscitando anche i morti. E cos'è? Cioè, come si fa a creare esordienti? Se un esordiente come Zampaglione, forse anche per colpa sua, ma soprattutto per colpa della sceneggiatura, poi fa la figura del minchione, perché questo film è una minchiata, è una schifezza, è girato malissimo, le interpretazioni sono penose, e tra tutte quelle della Gerini, che boh, qualcuno dice anche è capace in questo film, non capisco in cosa, è ridoppiata malissimo, è rigida come una stocca fisso, sì, è tutto ridoppiato, quasi tutto, o se non è ridoppiato... alcune scene sono doppiate meglio, non si capisce, a volte è pesantemente fuori sincro, a volte torna sincronizzato, sembra davvero di guardare un film anni 70, ma non è un bel vedere. Poi c'è Placido, che secondo me è un cane da anni e continua a farlo lavorare, qui vuole fare il romanaccio ma non sa fare l'accento e biascica, a un certo punto dice Pechino e non si capisce che dice Pechino, cioè è davvero un anziano che gli è caduta la dentiera e non gliela fa. E poi boh, c'è un finale, non lo so, tragicomico, cioè, l'interpretazione dell'assassino è davvero spaventosamente brutta, e sfido chiunque a non ridere in quel punto, dovrebbe essere il momento drammatico, invece ti liberi proprio da tutte le risate che hai trattenuto durante il film. E poi anche la Gerini, che se ne esce con queste frasi pronunciate monotone, con una tonalità proprio da morta, e dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Cioè... Non capisco, c'è Pulici, ma tantissimi critici che ne hanno parlato benissimo. Questo film è piaciuto a un sacco di gente, ma il problema è che non l'hanno visto in tanti, secondo me. Anche dei critici, anche dei giornalisti, perché è uscito in poche copie, pochi cinema. E chi è riuscito a vederlo in gran parte rientra in poi quella categoria di critici che se il film è italiano bisogna parlarne bene, e poi come quelli di Notturno, che se il film è italiano ed è di genere va bene qualsiasi cosa, tant'è che poi parlano bene anche di Manetti Bros, di Albanesi, e poi boh, cioè, questa gente incentiva il cinema spazzatura, cioè, e continua a fare, poi leggi Pulici che su Facebook si lamenta dei registucoli che lavorano solo perché c'è chi gli dà credito sulla stampa, e lui cosa fa? Cioè, dovete leggere la sua recensione che è sul numero vecchio di Notturno, riferita alla visione al festival. Madonna, sembra che parla di un capolavoro, tant'è che lo paragona anche ad Amer Elenca Tete e Bruno Forzani, che è uno dei più belli omaggi, questo davvero, al cinema italiano anni 70, fa questo paragone non stare in cielo né in terra, perché questa roba è da amatori, cioè è girata da uno che non può essere lo stesso di Shadow, è scritta da un rimbambito, è recitata da gente che sembra venuta dalla strada, è pieno di È incongruenze, pasoliniano, allora. sì, a volte sì, davvero, sembra un film italiano negli anni 60, di Visconti, di Pasolini, di Rosi, è davvero surreale, a Roma dove le librerie hanno i cartelli in inglese, metà della popolazione ha un nome inglese, Frank, Stefan, Kiran, che boh, ha un club buddista, credo, parla in inglese, ma non capisco perché in India si parla ancora l'inglese, non lo so, sì, ma è surreale vederlo, tra l'altro, personaggio grandioso che dovrebbe risultare esotico solo perché parla a un ritmo da denuncia, lentissimo, scandito, un po' trascinato, quasi serpentino, ma è insopportabile, tutto insopportabile in questo film, davvero. Spazzatura, secondo me è spazzatura la peggior specie, non c'è scusante, non c'è quasi nulla di salvabile, sembra partire bene all'inizio con questa evirazione che ti fa dire, ah, non mi dire che per una volta osano di più. No, finisce lì, è un inizio che ti fa cascare le palle, ma già i titoli di testa dovevano mettermi in guardia, che sono economici, sembra roba montata su con un programma video scadente. Pessimo, Ascolta, la cosa. Dimmi. l'evirazione ti fa cascare le palle, certo. Esatto, c'è ragione, Madonna, che cosa tautologica. Poi molti mi piace parlano del tasso erotico, no? Del fatto che qua fa vedere. Sì, fa vedere Duzin, la Gerini, che vabbè, se l'hanno già viste. E lei è rigidissima, davvero le scene di sesso con lei, cioè lei rigida come un ciocco, che slinguazza con quest'attore che secondo me è anche in difficoltà perché non sa come muoversi, e davvero non c'è nessuna traccia di erotismo, vuole fare l'estremo, ma poi non funziona, cioè non. È davvero un film che potrebbe benissimo essere uscito insieme a quelli che vuole omaggiare, quindi 30, 35 anni fa. È vecchio, e non perché è un omaggio riuscito, l'omaggio riuscito vuol dire che prendi spunto da un certo cinema come fa Tarantino e lo rivisiti, lo rielabori, ne fai qualcosa di nuovo. Questo non è omaggio, è derivativo, è un film vecchio, fatto male, con tutte le brutture che avevano i film degli anni 70, che però avevano la scusa dei soldi e dell'ingenuità di quel cinema. Sono passati 30 anni, siamo nel 2013, insomma, non è questo il modo di resuscitare il cinema di genere. Quello lo stanno facendo altri registi meno pubblicizzati. Anche ricordo, finché no, purtroppo non l'ho recensito, ma perché non meritavo, ma è comunque meglio di questo, The Butterfly Room di Jonathan Zarantonello, che è andato in America, non peraltro a girare. Ha fatto un film che secondo me si dimentica in fretta, però è sicuramente più interessante di questa robetta qui, davvero. Basta, basta, è peggio del cinema supereroistico. Non ne posso più, da appassionato io preferisco non vedere più horror e gialli italiani se devo vedere sta robaccia. E basta. Bene, bene. Abbiamo davvero superato le 2 ore adesso. E bello, come al solito, un'ora solo per le domande. Bastardi. Vabbè, ho 5 film stavolta. Sì, anch'io avevo una certa attesa. Shadow non mi era piaciuto perché, insomma, sì, tutti a dire, vabbè, ma hai fatto bene, c'è il finale che non è un granché. Fatto bene, di una piattezza addormentante, no. Poi, appunto, è piatto fino a un certo punto, poi si rovina anche nel finale, no, non mi era piaciuto, però l'omaggio è sempre gradito ai film di una volta, chissà che Zampaglione, che aveva dimostrato di essere un discreto regista, non se ne esce con un buon film. No, vabbè, l'inizio sì, con quell'evirazione, appunto, sembra essere promettente. Poi arriva il doppiaggio, tutti gli attori sono ridoppiati malissimamente, certo, non è il loro lavoro essere doppiatori, però Madonna, mettete i doppiatori veri, chi se ne frega se non sento la vera voce della Gerini per una volta. Terrificante. Però fin lì dice, ma non posso bocciarlo solo per il doppiaggio. Fa niente, ci posso passare sopra. Poi si vede che è un film girato in inglese e doppiato dopo. Poi però arriva la scena del carosello. Ma cazzo, che schifo! Questa deficiente che si è preso il batostone in testa. Poi tra l'altro poco prima c'era la scena della barbona, ricordiamo, che mangia il tonno nel baratto. Penso battutone in testa sul cavallino e prende questo filo spinato sull'occhio che glielo strappa anche via. Una cagata che terrificante. Poteva semplicemente girare la testa. Vabbè, insomma, c'è gente che di sicuro l'avrà apprezzata, però in questo Eur mai visto. E poi sì, veramente è il peggior film dell'anno. Purtroppo Movie 43 deve ancora uscire, però se la giocano, siamo ormai a luglio e si gioca la medaglia d'oro, medaglia d'argento di sicuro, argento non a caso. E che altro dire, veramente brutto in tutto, non si salva niente, sì l'inizio, basta. Guarda, per concludere, guarda, un inferno. Chi l'avrà visto potrà capire questa citazione. Madonna santa, che cosa terribile. Mi dispiace che ti ho trascinato in quest'incubo. Quando c'è la magia del cinema al suo meglio, non puoi fare nulla che sederti. E in sala eravamo quattro noi. Sì, vabbè, era un orario un po' infelice, però non credo che sia andato diversamente. Tra l'altro ho visto oggi, aspetta, intanto se vuoi parlare palla guardo gli incassi, ma è roba di... No, stavo per dire Fabio Di Felice, vabbè. No, perché? È infelice. Vabbè, direi anche di chiudere, mentre tu cerchi poi dilli pure gli incassi. Chiudiamo perché non c'è più niente da vedere. C'è, vabbè, World War Z, Z, quello che è, però... Chi se ne frega. Sì, l'unico blockbuster estivo, sì, insomma. Comunque ha incassato la bellezza di 31.866 euro. Azz. Osteria. Osteria, sì, che qualcuno dice è molto molto meno di Shadow. Io mi chiedo, ma Shadow era uscito al cinema? Sì, due cinema. Penso, quindi l'ha battuto. Sì, comunque, in effetti non esce molto altro e... Esce To The Wonder, però sì, quello se ne può scrivere, non è che... Sì, l'unico d'autore grosso, poi qualcos'altro magari arriva, ma... Cioè, Le avventure di Peter Pan, fanno rimettere al cinema, madonna. Sì, per il resto è... Insomma, è estate, ovvio. Pacific Rim, l'altro blockbuster grosso. Vabbè, è vero. E poi direi che più o meno finisce lì, perché... c'è Pain and Gain, quello di Michael Bay, che non lo definirei un blockbuster, comunque... Sono usciti altri film, perché prima c'era meno roba, ho visto qualche horror brutto in più quest'estate. Ah, esce quello di James Wan, come si chiama? Sì, l'ho detto l'altra volta, The Conjuring, però non so, il rito, una roba del genere. Sì, insomma, sono questi quattro film in cui, vabbè, di cui scriveremo, per il resto, tanto magari sul blog continuiamo. Se adesso si rivela soddisfacente, se andiamo, è probabile, a Locarno. Ah, sì. Possiamo fare una puntata breve su quello, comunque ne scriviamo qualcosina, insomma, vediamo, non sappiamo neanche se quei giorni vedremo, perché magari Erzo che capita nel giorno in cui non c'è una mazza, però vabbè. Beh, sì, insomma, qualcosa magari salta fuori. Però, insomma, è estate, persino i Licaoni, dicevi, sono andati in vacanza. Tutti sono in vacanza, dai. Incomprensibile, è anche una necessità, visto che non esce nulla, qui. Perdonateci. Esatto. Vabbè, godetevi queste 2 ore, cioè avete 2 mesi, più o meno, anche 3. Vabbè, ma è alla fine, ormai l'hanno sentita la puntata. È vero. Bene. Ma quindi... Ciao. Ciao, sì. Ciao. Buon rendere. O segui. Rifacciamo le domande, dai. Dai, sei toretta, madonna. Perché? Più quello che dei film. Abbiamo parlato di 5 film e allo stesso tempo abbiamo risposto a qualche domanda. C'è qualcosa che non muore. Ciao. Ciao. Buone vacanze. Sì.